Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, cominciate a prenotare il vostro intervento in diretta. Si può fare, i temi dell'attualità, i vostri interventi, le good news, la bella storia con cui ci lasciamo alle 8:30. Alessio Maurizio in studio, Carlo Gabardini presente, buonasera a tutti, stagista, opinionista, ritrovato da quasi una settimana dall'ultima puntata in diretta. È vero, sono felicissimo, finalmente sono qua in studio. C'è stato Ferragosto, c'è stato il set, il film, il pretore, tante cose. Cioè, domani temo che sarà l'ultimo giorno in cui non ci sono e poi sarò qua. Spero. Va bene, 800 24 00 24, tra poco. Adesso cominciamo con i titoli di Sky TG24. Letta da Vienna, difficoltà superabili, confido nella responsabilità di tutti, un errore far cadere il governo. A Sky TG24 il ministro Giovannini prova a brindare l'esecutivo. Una crisi è l'ultima cosa che serve al paese. A Berlusconi affida ad Alfano l'ultimatum per l'esecutivo. 18:30 previsto il vertice tra premier e vice. Talpa di Wikileaks condannata a 35 anni di carcere. Manning aveva passato documenti riservati ad Assange. Egitto, sia rilascio di Mubarak, il capo della diplomazia europea. Vogliamo mantenere rapporti con il paese. In Siria gas nervino contro la popolazione, gli attivisti accusano centinaia di morti a Damasco. Multe meno salate per chi paga subito. Da oggi sconto del 30% per chi salda entro 5 giorni dalla notifica. Roma e fan in delirio per Madonna, la pop star pronta a inaugurare la sua palestra all'ombra del Colosseo. Sarebbe paradossale se l'Italia ha tenuto duro nei momenti più duri della crisi, adesso che invece si possono cogliere gli elementi della ripresa, si può avvicinarsi alla terra promessa, finissimo dentro questioni di politica interna e ci avvitassimo dentro questioni di politica interna. Finché nessuno ci darà. C'è una tale urgenza che non abbiamo fatto nemmeno vacanze quest'anno. Abbiamo lavorato tutto il mese e continuiamo a lavorare tutto il mese. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri, mercoledì 28 ci sarà un importante Consiglio dei Ministri su tutti i temi di natura fiscale. Ma che anno era? La terra promessa. La terra promessa. 1984 forse, ci dico dalla redazione che anche quest'oggi è andata a scovare un tema musicale strepitoso. 1984 intanto ci confermano. La terra promessa, perché insomma, Letta ha detto adesso che siamo in vista della terra promessa, cerchiamo di non farci del male da soli. Speriamo che la prossima volta non dica anche che ogni promessa è debito, diciamo così per chiosare. Sì, cioè, banalità, luoghi comuni a gogo. Tra l'altro è scoppiato l'hashtag su Twitter, Italia promessa, dopo questa cosa qua, ci sono un po' di commenti. Italia promessa, per esempio scrive Niccolò Caden, sentirsi italiani anche nei 4 anni tra un mondiale e l'altro. Invece c'è chi dice Italia promessa è senza il governo Letta. Ognuno quindi, dice la sua, diciamo. Letta non farebbe parte della promessa in questo caso qua. Ognuno dice la sua. Beh, ce ne sono tanti. Per esempio questo che dice quel paese in cui non ti restituiscono il curriculum perché hai troppa esperienza. Insomma, qualcosa anche di ironico. Vabbè, la terra promessa di Enrico Letta, che naturalmente tira anche l'acqua al suo mulino, perché in questo momento il suo governo fa parte un po' dell'orizzonte della terra promessa. Però insomma le schermaglie tra il PD e il PDL non finiscono. In vista della ripresa a settembre della riunione della giunta per le immunità, cosa voterà il PD? Voterà sì oppure per la decadenza, oppure darà un tempo per un'istruttoria maggiore, per un ricorso alla Corte Costituzionale come chiede il PDL? 800 24 00 24. Sentiamo Lara Comi e l'onorevole Giachetti che battibeccano, lei del PDL e lui del PD. Molti cittadini hanno avuto però delle condizioni differenti, ovvero quello di commutare il reato in amministrativo. Molti personaggi famosi che hanno fatto frode fiscale, ma uno mi viene in mente Valentino Rossi, se vogliamo citarne uno che stimo, per carità, però in molti personaggi questo non è avvenuto. Ma Valentino Rossi corre con la moto e non fa politica. Ma cosa non vuol era dire? Presidente. Però no, scusate, la legge deve essere uguale per tutti. Se siamo all'inizio, già facciamo. No, ma è solo, la legge deve essere uguale per tutti, allora, non lo dire a me. A maggior ragione la legge deve essere uguale per tutti. Il nostro cammino. Napolitano ha anche lui le sue responsabilità. Io non sono così soddisfatta delle dichiarazioni che ha fatto, perché in queste ha posto dei paletti ben precisi e quali sicuramente sono quelli che non vanno bene? Ma no, ma su quelli che abbiamo accennato prima, quindi non era una lettera di apertura nei confronti di Berlusconi, anzi era una lettera molto restrittiva in questo. È il massimo che poteva. Nel Partito Democratico comincia la corsa a smarcarsi dall'accusa di essere un francotiratore, cioè quando ci sarà il voto a scrutinio palese, perché così è sulle cose che riguardano le persone in Parlamento, scusate, a scrutinio segreto, sulla questione della decadenza di Berlusconi, non in giunta ma nell'aula del Senato, perché insomma tutti dicono per non far finire la legislatura, per non far cadere il governo Letta, anche qualcuno del PD voterà per non far decadere l'odiato Berlusconi. Qua un renziano, Richetti, dice no, votare sì sarebbe un atto conseguenziale. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha detto che non si fa un governo ad ogni costo e non penso che tra i costi che si possono pagare ci sia quello che la legge per Berlusconi non vale. C'è una sentenza, una condanna definitiva. Per quanto mi riguarda, mi pare che su questo il PD non abbia ambiguità, dal capogruppo Speranza al segretario del partito hanno avuto una posizione chiarissima. Per noi è un atto conseguenziale quello della decadenza di Silvio Berlusconi. È stato detto così, ma era stato detto anche voteremo Prodi, capo dello Stato, e poi ci furono i 101 famosi. Franchiti, famosi per niente, perché non si sa chi sono, però diciamo... È per il numero, diciamo, famosi, che è il numero dei noti, cani. Famosi ma non esatto. Noti. Sentiamo ancora Richetti che dice imporre al PD di votare contro la decadenza di Berlusconi per far stare in piedi il governo si chiama ricatto in italiano. Immagino che il PD terrà fino in fondo questa posizione. Anche se questo metterà a repentaglio il governo Letta? Sì, però questo in italiano si chiama ricatto e io penso che non si possano accettare più i ricatti in questo paese. Non siamo fatti così, parliamo sempre al futuro. E salutiamo, ci ha raggiunto il primo ospite di questa sera. Stiamo parlando proprio di questo, di cosa si voterà nella giunta per le immunità, di quali sono le posizioni in campo. L'onorevole Enrico Buemi, buonasera. Buonasera a tutti voi. Del PSI, però fa parte del centro-sinistra. Esiste il gruppo del PSI oppure esiste la sigla, il partito? Però poi siete gruppo PD, com'è al Senato? No, noi siamo il gruppo Autonomia e Partito Socialista Italiano, un gruppo a parte, pur essendo stati eletti nelle liste del PD in base all'accordo Italia Bene Comune. Però lei è uno di quelli che tiene un po' in fibrillazione, perché lei ha detto chiaramente che, a parte che anche il capo del suo partito, Nencini, al suo tempo aveva detto io voterei per non far decadere Berlusconi, e lei è uno di quelli possibilisti, bisogna dare tempo a questa istruttoria, bisogna capire bene com'è la situazione, anche se fa parte del centro-sinistra che al momento sembra schierato per invece per votare la decadenza. And now the good news. Se sei disoccupato o cassi integrato, lo spettacolo è gratis, almeno al Teatro Stalker nel quartiere Le Vallette di Torino. Attraverso questa iniziativa, la compagnia Stalker vuole favorire l'accesso alla cultura anche per chi è in difficoltà economiche. Il biglietto è scontato, ma speriamo che non lo sia anche la trama. (800) 24 00 24, tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi. Cari ascoltatori, vi ricordo che se volete interagire in diretta con noi, per esempio su Twitter il mio account è @ Ale Maurizi, quello del programma è @ Si Può Fare 24, poi c'è quello di Carlo Gabardini, che è Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, che però adesso, per le nostre ben note regole d'ingaggio, quando c'è l'ospite si mette all'ascolto e si tace Enrico Buemi, allora di nuovo buonasera intanto, onorevole senatore del PSI. Il Fatto Quotidiano oggi la schiera di così d'ufficio tra i pro Berlusconi. Lei voterà contro la decadenza per salvare Silvio Berlusconi? Ma guardi, quella del Fatto Quotidiano non è una novità. Continue illazioni. Ovviamente, siccome loro interessano un certo tipo di interpretazione e di soluzione, spingono in quella direzione e criminalizzano tutti coloro che invece hanno posizioni diverse. Sì. La mia non è né pro né contro. Il procedimento all'interno della giunta per le immunità e le elezioni deve iniziare il 9 sulla relazione del relatore Augello. Sì. Dopodiché faremo gli approfondimenti, le discussioni, ci confronteremo tra i colleghi di giunta e alla fine del percorso decideremo da farsi. Altrimenti io mi chiedo a questi legulei da strapazzo, che senso ha? Chi sono i legulei però? I legulei sono quelli che danno un'interpretazione a priori delle norme, mi riferisco al Fatto Quotidiano, mi riferisco a Travaglio in particolare, che da questo punto di vista ormai sono anni e anni che cavalca questo atteggiamento antisocialista su tutto, dimenticando che il garantismo è una cosa non pelosa, è una cosa che vale sempre, non vale soltanto quando ci sono i nostri amici e i nostri avversari, quando ci sono i nostri avversari politici non va bene. Ma ritornando sul merito, sì, la giunta inizierà il 9 ad approfondire la questione. Lei condivide come ha gestito fino ad ora il presidente della giunta la vicenda, Stefano? Assolutamente sì, nel senso che abbiamo stabilito un programma. Il 9 ci sarà la relazione del relatore Augello, ci sì, confronteremo, però bisogna prendere atto di una situazione. Primo, che in questi anni le leggi italiane sono state discutibili non soltanto dal punto di vista del merito, ma anche dal punto di vista della forma con cui sono state estese e approvate. Colpa vostra di parlamentari. Io manco dal Parlamento da 5 anni. Però ha fatto 3 legislature. Due legislature in precedenza, però non è questo il punto. C'è un decadimento. Ma lei si riferisce anche alla legge Severino in questo caso? No, c'è dubbio, sì, perché se in questi giorni lei avrà letto che insigni costituzionalisti di destra, di sinistra, docenti universitari di varia levatura, non hanno enunciato soluzioni, hanno posto problemi, riflessioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che la norma si presenta a dubbie interpretazioni, quindi c'è un'area grigia sulla quale la giunta dovrà cercare di fare luce, e laddove le competenze e io spero le onestà intellettuali presenti in giunta non saranno in grado di superare le incertezze, bisognerà rivolgersi anche intanto all'aula, all'assemblea senatoriale, sì, nel suo plenum, e eventualmente ad altri organi che hanno competenza nel dirimere come questioni. La Corte Costituzionale? Ma insomma, adesso da questo punto di vista si può ancora discutere se un Parlamento ha bisogno di andare alla Corte. Ma perché oggi, per esempio, su legge che ha approvato, esatto, l'ex ministro Severino oggi su Repubblica praticamente esclude questa ipotesi, perché dice il Parlamento, se ha dei dubbi di costruzione di una legge, la riscrive la legge. Da questo punto di vista posso anche convenire, sì, anche se nel momento in cui la legge è promulgata la competenza a dirimere le questioni interpretative è della Corte Costituzionale, non è certamente il Parlamento. Se ha la volontà politica può anche modificare le leggi, se non c'è la volontà politica di modificarle c'è comunque un organo deputato, un organo costituzionale che è la Corte Costituzionale, che come si dice è il Tribunale delle Leggi, che si esprimerà sulla legittimità e sulla quali sono le soluzioni applicative di quelle norme. Senta, ma se, come dice lei, come dicono anche altri, questa legge è un po' opaca, non è chiaro se la questione della retroattività, per esempio, perché i fatti risalgono a prima della legge, però la condanna è successiva alla legge, e altri aspetti, perché quando è stata approvata invece questa legge nel 2012 in pompa magna, tra l'altro legge che inizialmente portava anche il nome di Alfano, nessuno, neanche di quelli del PDL, all'epoca ha messo in dubbio, lei non c'era, non era onorevole, quella legislatura lì non c'era. Esattamente. Però, ma guardi, la questione è questa: in questi anni, come dicevo prima, le leggi sono state fatte o a favore di uno o contro di un altro. Però questa legge è stata votata dal PD e dal PDL. Scusi, le sì, leggi concepite con questo tipo di impostazione e non invece concepite in senso astratto, hanno, come si può dire, il dritto e il rovescio, perché se a un certo punto si arriva all'approvazione, tra l'altro di una coalizione molto ampia, ognuno ha dato la lettura di quella norma secondo il suo proprio punto di vista, e ovviamente noi sapevamo e sappiamo qual era la questione del contendere in quel momento storico. Allora è evidente che quella legge lì si porta dietro questi equivoci, e sono equivoci che devono essere sciolti in una sede che è prima di tutto quella della Giunta per l'immunità e le elezioni, e poi vedremo le sedi successive. Quanto tempo secondo lei occorrerà per fare questa verifica? Ma io credo che non bisogna avere né fretta né anche allungare il brodo. Ci sono tempi ragionevoli dentro i quali è possibile sviluppare un dibattito sereno, sì, e affrontare puntualmente la questione delle norme scritte, non di quelle che ci fanno comodo e delle interpretazioni più convenienti alla nostra posizione politica. Io credo che insomma forse sarebbe dirimente, e in questo senso la celerità del Tribunale di Milano, della Corte d'Appello di Milano e anche della Cassazione sarebbero di aiuto, se a un certo punto si rivedesse, come è stato richiesto dalla Corte di Cassazione, da parte della Corte d'Appello di Milano, la questione relativa all'interdizione dei pubblici uffici. Perché nel momento in cui la Corte d'Appello di Milano e poi eventualmente la Cassazione confermano l'interdizione per 1, 2, 3 anni, quello che decideranno, è evidente che la soluzione del problema sta nella sentenza. L'interdizione dei pubblici uffici pronunciata da un giudice terzo e che ha esperito tutti i 3 gradi di giudizio, a quel punto non lascia più spazio a libere interpretazioni. Però scusi, anche una legge votata dal Parlamento che prevede l'incandidabilità dopo una sentenza dovrebbe avere un effetto, se no le leggi non si applicano. Guardi, io sono d'accordo con lei, ma ritorno alla questione che ho posto inizialmente: è una legge equivoca. Sì. No, ma questo che ci debba essere un approfondimento, questo è possibile, questo naturalmente però è possibile. Però c'è un altro aspetto, mi consenta di dirle, c'è un altro aspetto: le norme penali non possono essere retroattive. C'è una norma dell'81 che prevede che anche le norme che prevedono sanzioni amministrative non possano essere retroattive. Il filtro che è stato introdotto dalla normativa della Severino può essere riconducibile, non sono sicuro, pongo il problema, può essere riconducibile a una norma amministrativa di carattere sanzionatorio, nel senso che chi ha ricevuto una condanna eccetera eccetera non può più essere candidato eccetera. Quindi allora la questione è anche in questi termini, e poi c'è il punto di vista dell'Europa, questa tanto decantata Europa che richiamiamo tutte le volte al nostro che c'entra adesso l'Europa? L'Europa, la Convenzione dei diritti dell'uomo dice che le norme non possono essere retroattive, qualsiasi norma, qualsiasi legge non può essere retroattiva, in particolare le norme che seppur però senta Buemi, c'è un onorevole, un consigliere, scusi, un consigliere regionale del Molise, del suo partito, che certo, non è stato fatto candidare per una cosa tra l'altro di 20 anni prima, e lì però è stata applicata. Io credo tra l'altro non se l'è filato nessuno, è stato il primo, forse sarà l'unico, vabbè, perché se la legge poi la modifica. Un socialista è sempre comodo, non interessa nessuno, cioè non crea scandalo. Ma lei alla fine su cosa scommette? Scommette sul fatto che Berlusconi comunque decadrà perché la maggioranza va contro di lui? Guardi, perché si tratta di un voto politico poi alla fine. Non gioco in genere, non gioco neanche a carte, quindi si figuri se mi metto a scommettere su queste cose. Però presento due questioni. Sì. La prima questione è che in questa materia, che ha tra l'altro ripercussioni di carattere politico rilevante, perché lei ha chiaro che cosa vuol dire lo scontro frontale a cui si andrà nelle prossime settimane, sì, se ci sarà un certo tipo di soluzione, quindi in questa materia bisogna esperire fino in fondo ogni ragionevole dubbio, in modo tale che i colpevoli non vengano trasformati in vittime. Questa è la prima questione, perché io temo che di fronte a una azione, un giudizio, definiamolo così, tra virgolette, approssimativo e molto pregiudiziale, si possono innescare, anzi sicuramente si innescheranno meccanismi di questo genere e si stanno già innescando meccanismi di questo genere. La prima questione è questa. La seconda questione è cioè Berlusconi lo stanno trasformando da colpevole in vittima? Certamente, perché la campagna elettorale che ci sarà a seguito della crisi di governo e dell'eventuale scioglimento delle Camere tra un mese, sei mesi, non so quando sarà, perché non sono nella testa del Presidente della Repubblica, la campagna elettorale sarà condotta da parte del centrodestra sulla linea ci avete voluti escludere il nostro leader con una sentenza giudiziaria, con una condanna, mettendolo in carcere oppure mandandolo ai domiciliari, eccetera, eccetera. Quindi il repertorio, il canovaccio della campagna elettorale è già scritto. Allora chi ha amore per questo nostro paese rispetta lo Stato di diritto, ma non può non farsi carico del problema politico grande come una casa che è di fronte a tutti noi. Quindi, non è una cosa tecnica, cioè relativamente alla Severino, se si applica o non si applica, no? È un problema politico. Guardi, quindi penso il Parlamento potrebbe dare anche un voto politico, per esempio non votando la decadenza di Berlusconi per una valutazione politica. Questo punto è stato preservato dai nostri padri costituenti nel momento in cui hanno deciso di scrivere nella Costituzione che la decadenza, cioè che l'azione di esclusione di un appartenente alla Camera o Senato può essere pronunciata. Certo, questo è un articolo della Costituzione. Infatti è previsto il voto della Giunta, esattamente dopo. Non solo della Giunta, ma è previsto il voto dell'Aula. Il voto segreto, se richiesto da almeno 20 senatori, sì, dell'Aula. Quindi nel momento in cui infatti quasi sicuramente segreto, quasi sicuramente sarà un voto segreto, Buemi, questo sì, lo dicono tutti. A questo proposito, secondo lei quanti sono nel centro-sinistra che non lo dicono apertamente adesso, ma guardi, che la pensano come lei? Io la sfera di cristallo non ce l'ho, non faccio il mago. So semplicemente che faccio i conti tutti i giorni con la mia coscienza e con le mie conoscenze. Ma avrà parlato culturali con qualche onorevole, con qualcuno? Credo che di dubbi ne ho visti anche scritti sui giornali. Sì. Certamente il clima di criminalizzazione che sta crescendo da parte di taluni che si ricordano di certe cose solo quando conviene, se le dimenticano in altre fasi storiche, è evidente, preoccupante. Quindi coloro che hanno interesse a mantenere un rapporto di un certo tipo con la loro organizzazione politica, certamente sono frenati nel dire come la pensano. Io sono socialista, ecco, sì, se mi consente, io sono socialista e sono libero di pensiero, sono un garantista da sempre, non soltanto quando le questioni riguardano i miei amici, ma anche quando riguardano i miei avversari. Faccio, come dicevo prima di tutto, i conti con la mia coscienza e ovviamente mi aspetto di sentire le ragioni degli uni e degli altri con i contributi di scienza giuridica che possono arrivare. Ma anche per tenere in vita il governo Letta, più banalmente, più prosaicamente, avendo questo meno a cuore problema, questioni garantiste, ma semplicemente questo è un problema che deve riguardare tutti gli appartenenti al Parlamento, a prescindere, perché una crisi di governo oggi, una andare alle elezioni anticipate nei prossimi mesi, sarebbe una grave lesione della situazione che in qualche misura invece si sta riprendendo nel nostro paese. Quello che ha detto anche Letta. Di risposte sul merito dei problemi degli italiani. La questione di Berlusconi, sì, che deve stare fuori o dentro il Parlamento, si risolve comunque nell'arco di qualche mese, a seguito di una sentenza definitiva anche per la parte interdittiva dei pubblici uffici. E quindi io non capisco tutto questo levar di scudi, questa fretta che a mio avviso a questo punto mi diventa sospetta, perché, ripeto, nel giro di qualche mese questa questione si risolve. La fretta è sospetta per chi la pensa come lei, invece dall'altra parte viene visto con sospetto il fatto di dilazionare i termini, perché si ritiene che la legge Severino debba essere applicata e basta. Che cosa vuol dire dilazionamento dei tempi? Che cambiano le cose se si va a una sentenza definitiva nel giro di 3 mesi, 4 mesi? Cosa vuol dire? Che il Parlamento farà una legge che toglierà dalle grane Berlusconi? Non credo proprio. Mm-hmm. Che cosa vuol dire? Che succederà un miracolo? Intanto sappiamo che a settembre il giudice di Milano dovrà decidere quello come sull'interdizione. Comunque lei una previsione. Non sull'interdizione, dovrà decidere sull'applicazione della pena detentiva che è stata ormai comminata e che è diventata definitiva. Quindi lì non c'è più da discutere. C'è la condanna ad un anno, cioè a 4 anni ridotta ad un anno per intervento dell'indulto, e quindi lì l'applicazione mi pare pacifica, no? Quindi si tratta di scegliere come quella pena debba essere diciamo scontata. Abbiamo finito il tempo a disposizione, Enrico Buemi, grazie per essere stato con noi. L'onorevole senatore del PSI, che sarà in giunta per le immunità e quindi sarà tra quelli coinvolti da partire dal 9 settembre, così? Grazie, sì, senz'altro, e spero proprio che si riesca a ragionare nel merito delle cose, sì, e trovare una soluzione. No, ma dico, la giunta è convocata per il 9 settembre o il 6 settembre? 9 settembre. Quindi dobbiamo aspettare ancora quasi una ventina di giorni. Grazie e buona serata. And now, the good news! Nel piccolo comune di Lagnasco, in provincia di Cuneo, da 3 anni sindaco e consiglieri hanno rinunciato allo stipendio, nonostante il bilancio comunale sia inattivo. Dicono, fortunatamente, di non averne bisogno e preferiscono reinvestirli in progetti di pubblica utilità. Speriamo che sia contagioso. Eccoci qua, hai sentito l'onorevole Buemi del PSI dire, eletto nelle file del centro-sinistra, dire che non bisogna trasformare il colpevole, cioè Silvio Berlusconi, in vittima, che c'è un eccesso di criminalizzazione, che però entro qualche mese il Senato dovrà pur prendere una decisione. Non ci ha detto come voterà lui, se ha detto che vuole approfondire la questione, però poi non si è sbilanciato, anche se ma nel senso sembrava che dopo più un no che un sì. Ma perché votano per avere una proroga per votare più avanti, è giusto? È questo? No. Ci saranno, sì, tutte le istruttorie del caso, il relatore Augello del PDL della questione chiederà probabilmente più tempo per approfondire, esatto, queste, sì, sì, zone grigie della legge Severino. Che oggi in un'intervista, in un colloquio con Repubblica, il ministro Severino ha chiarito alcuni aspetti, però naturalmente inizia lei, diciamo, a chiarire le zone grigie per portarsi avanti. Per lei non esistono zone grigie, per lei è tutto chiaro, però mi pare che non siano tutti d'accordissimo su questo. Abbiamo citato l'hashtag Italia Promessa su Twitter, dopo che Letta ha detto che oggi, insomma, ha detto che c'è la terra promessa e quindi non bisogna guardare con ottimismo verso il futuro. Però ci sono anche altre cose gustose su Twitter e qui ti cedo il passo, Gabardini. Certo. Per esempio, è la prima volta, questo è un grande momento per lo stagismo. Per lo stagismo. Stagismo in generale, non per lo stagismo, da una notizia. No, è vero, c'è Daniela Santanchè che è attivissima su Twitter, sì, che 5-6 ore fa ha twittato: una cosa è certa, Gasparri non morirà mai di troppo lavoro. Questo è, diciamo che è Gasparri e la Santanchè non è l'ultimissimo, perché in realtà poi 3 ore fa ha risposto Gasparri a questo tweet della Santanchè dicendo: difatti sono resistente, lavoro da militante più di tanti altri e non ne morirò, sono allenato alle battaglie dure. Tutto era partito dal giorno prima, sì, che diciamo Gasparri aveva twittato: morire per Berlusconi va bene, ma non per il Twiga, perché è il locale dove la Santanchè aveva twittato delle foto. Insomma, è una sitcom su Twitter molto divertente. Aveva fatto le foto agli striscioni di Berlusconi, della rinascita di Forza Italia, e nella foto si capiva che lei era al Twiga perché c'era la bandiera del Twiga, è il locale dove ci si diverte, dove si passa l'estate. Quindi questo, esatto, contrasto tra la passione politica e la passione per la spiaggia. Esattamente. Però mi rileggi l'ultimo tweet di Gasparri, perché è interessante, no, dice: non morirò per il troppo lavoro politico. Cioè, no, dice, quasi... difatti sono resistente, questo? Sì. Lavoro da militante più di tanti altri, non ne morirò, sono allenato alle battaglie dure. Questo non ne morirò, che è un po' interlocutorio, perché, come dire, va bene difendere Berlusconi, però lui viene allorato tra, non troppo, tra, diciamo, le colombe, ma non tra e le fasce. E poi c'è tutta la questione Franco Nero, di Franco Nero che ha... Però teniamolo lì, per Franco dopo. Nero teniamolo lì, va, perché benissimo, così gli ascoltatori restano con la suspense. Adesso cominciamo con gli interventi. Nicola dalla provincia di Verona, buonasera. Pronto, buonasera. Eccoci. Salve, qua. Io volevo proprio parlare di questo intervento di Franco Nero, perché stamattina durante la rassegna stampa, proprio fatta da voi Radio 24, sì, ho sentito cosa diceva la... Ci ha bruciato il tempo sulla nostra, volevamo, no, fare... Ci sono rimasto perché un giornale di tiratura nazionale, che non so se posso dire il nome, comunque... Certo, possiamo dire tutto. Sì, il giornale. Ma certo, ma lo sanno tutti. No, infatti sono rimasto un po' basito perché non mi do pace al fatto che un giornale nazionale si preoccupi di mettere in prima pagina una sorta di indagine su un magistrato che tra l'altro è un magistrato di Cassazione, non è un magistrato, voglio dire, al primo livello di giudizio. E sì, io invito, no, perché questo si può fare, cioè uno può fare un'inchiesta su quello che vuole, semmai la curiosità è che il testimone, che tipo di inchiesta è, visto che diciamo, questa è la cosa curiosa, certo, no? Certo. Però no, è che sì. mi sembra una mala informazione che ormai è appurata, cioè, ovvero il cittadino medio che va in edicola a comprarsi il quotidiano, fra i quotidiani più famosi, si trova in prima pagina queste notizie che personalmente penso che il paese abbia bisogno di altre informazioni. Vabbè, questo è il suo punto di vista, i lettori del giornale la penseranno diversamente. Vediamo però allora se c'è qualche tweet simpatico, perché Franco Nero nel frattempo è diventato un top trend, cioè se ne parla su Twitter. Vediamo un po' se c'è qualcosa, Gabardini. Avevamo visto che... Sì, ma in questo momento non lo ritrovo, quindi... Ti colgo impreparato. Sì, esatto. E questo è un punto di insufficienza nello stage. È l'emozione. Perché... Dopo aver dato la notizia, io adesso vado in ferie fino a lunedì, direi. Adesso però studia e vediamo se sei rimandato tra qualche minuto. Alberto dalla provincia di Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, sento questi interventi, rimango un po' così allibito. E quando non quale interventi? Governo, si riferisce a Buemi? No. Sì, ma sì. Anche non solo, anche sinceramente alle trasmissioni, gli interventi, così nessuno ricorda cosa sono stati questi 20 anni. E quando non ho messo su questo ultimo, ce lo ricordi lei governo, però con sintesi, perché sennò facciamo notte. No, brevemente. Sì. Hanno tutti quanti parlato di bene per il paese, lo facciamo per il bene per il paese. Sono passati cosa? 3-4 mesi? Si parla del bene di una persona e dei suoi persone, le sue persone più vicine. Ricordo che in questi 20 anni che hanno azzoppato il paese, che sì, hanno prosciugato la dirigenza, l'unica riforma che è stata fatta è quella sulle pensioni. Vuol dire che fra 10 anni un sacco di gente andrà in pensione con 500, 600, 700 euro. Abbiamo spostato la Grecia. E non riusciamo anni a togliere terra, qualcosa alle pensioni, scusi se aggiungo questa cosa qua, non riusciamo a togliere qualcosa alle super pensioni, quelle sopra i 5.000 fino ai 90.000 euro al mese. Questo... Ci troveremo a livello della Grecia fra 10 anni, non potremo questo non lo figli, sappiamo, ma insomma speriamo che la sua previsione non sia realizzata. Alberto, grazie, buonasera. Le faccio solo una domanda. Sì. Le pensioni dei parlamentari sono cambiate? Gli stipendi dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei deputati europei sono cambiate? Vabbè, ma queste sono cose di cui abbiamo parlato mille volte. Adesso il vitalizio non c'è più, ma sono temi di cui abbiamo parlato in passato mille volte. Che domanda è la sua, Alberto? Cioè, hanno tratto qualcosa? Non ho capito. Sì, sono arrivate a qualche conclusione. Le pensioni nostre sono tagliate, i loro stipendi? Grazie Alberto. Vabbè, sugli emolumenti addirittura c'è chi, come il sindaco di Roma Ignazio Marino, che credo che guadagni 4.000 euro al mese o forse anche meno, ormai per i tagli che sono stati fatti, che ha detto bisognerà prima o poi riequilibrare, perché non è che uno che amministra la capitale d'Italia possa guadagnare meno, che ne so, di un consulente di marketing di una qualche azienda, o dovrebbe guadagnare più o meno quel dirigente di un'azienda. Sì, vabbè, che in parte è anche giusto. Che in parte è anche giusto, in parte fa infuriare i cittadini. Questo però per dire che gli stipendi, se andiamo a guardare, un po' sono calati. Non facciamo la solita demagogia, tante cose sono calate, forse quello dei parlamentari un po' meno, ma a livello di consiglieri regionali, di sindaci, anche Renzi ha detto tante volte di guadagnare credo intorno ai 4.000 euro al mese. Non mi sembrano stipendi che non vadano bene per il sindaco di una grande città. Poi c'è il tema del Parlamento, le pensioni, però i vitalizi non ci sono più. Insomma, piano piano. Anche perché se non guadagnano niente, trovano il modo se no di guadagnarli in un altro modo. Ci stiamo ingarbugliando, quindi... però, su questo comunque tema. Comunque, ti ha trovato il tweet Franco che Nero. Dicevi su Franco Nero, che è un tweet di Italia Rialzati, che dice: ultima ora, il PDL istituisce il quarto grado di giudizio, la testimonianza di Franco Nero. Che mi sembra così, esatto. Non è che facesse proprio. E Suzuki Maruti che dice: le probabilità che nei prossimi mesi arrivi una fiction Mediaset con protagonista Franco Nero crescono, sono altissime, esatto. Anche se in realtà Franco Nero lavora moltissimo all'estero, quindi non credo che abbia bisogno di fare delle fiction in Italia. Franco Nero è un po' il Clint Eastwood italiano, tra l'altro. Assolutamente. Sì, poi nell'intervista ha detto anche delle cose, diciamo, su un film che ha fatto lui, che è Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, che è un film di Damiani conosciuto, però lui dice: credo sia la pellicola italiana che ha avuto più fortuna fuori dai nostri confini. Mi sembra un po' forse esagerato, un po' forse azzardato. La Dolce Vita, la, tua, tutta, la tua è tutta invidia perché sta certo. Girando Il Pretore a Varese. Allora salutiamo il sindaco del PDL in esilio di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi, il nostro prossimo ospite di questa sera. Buonasera. Buonasera, io però non sono del PDL, anzi ce l'ho sempre avuto contro, di la verità, comunque. Ah, allora perché dalla redazione mi hanno scritto così? Infatti, no, intanto scrivono così qualche giorno. Sì, la sua è una lista civica di centrodestra, però. Ma è una vera civica, guardi, sì. Non è mascherata, è una vera civica. Di sì, amici. Non è per questo però che l'abbiamo chiamata, per la sua storia. Lei ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Napolitano perché da un po' di tempo non può più entrare nel suo comune perché c'è un giudizio pendente su di lei per, credo, un abuso d'ufficio. Adesso chiariremo tutto. E il suo è un caso un po' strano, un po' straordinario. And now, the good news! Marco Actis e Davide Fuggetta, stanchi di essere perennemente precari, all'età di 28 anni si sono inventati un lavoro. Offrono un servizio di Pony Express in bicicletta, sgusciando tra le macchine nel traffico torinese. Le loro consegne sono le più veloci della città e anche le meno inquinanti. Di nuovo con il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi, che oggi, anzi due giorni fa, sul giornale ha pubblicato questa lettera a Napolitano. Il titolo: il sindaco scrive a Napolitano, esiliato dai PM come un boss. C'è una vicenda giudiziaria, lei è stato accusato quanto tempo fa di turbativa d'asta? Qual è l'accusa esatta, sindaco? Io sono accusato di aver dato dei suggerimenti nella stesura di un bando, e questo è considerato abuso d'ufficio e turbativa d'asta, e di aver detto al comandante dei vigili di togliere l'autovelox, e questo è abuso d'ufficio e violenza privata. Il suo comune però non è stato commissariato, questo già è un po' strano, o sì? No, non è stato commissariato perché non può essere commissariato. Ah. Però di fatto è tutto sospeso, lei sta come quando Conte era fuori dalla panchina della Juve e parlava al telefono che non poteva entrare in campo col suo vice, lei con gli assessori, come fa? Ma diceva che io ho fatto un passaggio di consegne, come sì, era giusto che fosse per le cose che seguivo io, e poi ho lasciato in realtà molto carta bianca, diciamo, al vice, al Carrera di turno, dobbiamo restare in metafora. La Juventino lei? No, io sono della Fiorentina. Della Ah no, perché l'avevo preparato sul vice di Conte. Mi piace il calcio. E quindi niente, io sono qui al paese vicino che aspetto, perché in realtà il processo non è iniziato, non sono naturalmente condannato, ma non sono neanche rinviato a giudizio ancora, quindi... Vabbè, però fin qua uno dice ha una vicenda giudiziaria, c'è questa cosa strana come si chiama tecnicamente, il confino, l'esilio, come si dice? Si chiama divieto di dimora. Tecnicamente, ecco. Sì. È una pena, diciamo, alternativa rispetto al carcere, è una pena preventiva, una misura preventiva, perché pensano che lei possa inquinare, non so, le prove in comune su questa cosa qua. Si possa reiterare il reato in realtà, perché anche le prove, poi tra l'altro io non contesto nessuno degli elementi del giudizio, quindi il messaggio al vigile l'ho mandato, l'email alla funzionaria l'ho mandato. Ecco, lei invece però contesta, qui il merito della cosa, la sostanza di queste accuse, e per questo ha scritto la lettera a Napolitano. Cosa scrive, cosa chiede? Ma sì, diciamo che io ho scritto a Napolitano per insomma fargli capire che questa è una situazione un po' anomala, ecco, già la misura dell'esilio francamente insomma io credevo appartenesse a altre epoche della storia e mi sembra un poco attuale, ma soprattutto io poi nel merito rivendico il diritto e anche il dovere di un sindaco di poter suggerire di abbassare la cifra di un bando se gli sembra che sia troppo cara, o di dire ai vigili vai a presidiare il centro e basta fare imboscate con l'autovelox. L'ho fatto in maniera trasparente, insomma, e non rinnego di averlo fatto. Credo che io ci metto la faccia come tutti gli amministratori locali con i cittadini che quando si devono lamentare si lamentano giustamente con noi. Credo di avere anche il diritto di poter incidere naturalmente nella legalità, perché però, poi sì, una cosa che ci tengo a dire, io non sono accusato di aver avuto interessi diretti o indiretti dei miei comportamenti. Cioè, la stessa procura riconosce che io non ho fatto per avere vantaggi miei. Quindi avrebbe semplicemente turbato le normali procedure, non avrebbe agito secondo le procedure. Esatto. Non lo so, nel caso del comandante di vigile avrebbe dovuto fare, non so, una presa di posizione in giunta piuttosto che dare un'indicazione, sì, con una carta protocollata. Sì. Ha sbagliato i modi, però se questi modi ci sono, lei contesta l'esistenza di queste modalità troppo strette? Per esempio, è una gabbia nella quale, non so, un sindaco non riesce a muoversi? Ma esatto, diciamo che anche coi vigili mi fa da ridere che io andare in giunta e fare una delibera per dirgli di togliere l'autovelox. Io quando vedo il problema intervengo con un messaggio, ma come ho sempre fatto, però forse tante cose sono già risolte grazie ai miei messaggi. Prima li vedevo, sì, non so, quello che suonava senza permesso, dicevo guarda c'è quello, e va lì e lo controlla e lo pizzica. Quella volta che la Nemora ha montato la casetta abusiva in centro, gliel'ho pizzicata io perché gli ho mandato un messaggio al vigile. Cos'è che ha fatto l'Elemora? Beh, ancora qualche giorno fa aveva montato una struttura abusiva in pieno, sì, centro. Io stavo passeggiando con mia moglie, l'ho vista e ho chiamato il comandante, ho detto vieni giù a vedere se hai... Perché vabbè, però questo è un caso, diciamo, singolo. L'autovelox è una cosa che ha impatto su tutti i cittadini, sulla città, non lo so io. Per quale motivo, secondo la procura, lei non avrebbe rispettato le regole? Perché cosa avrebbe dovuto fare? Che atto perché avrebbe dovuto fare? Avrei minato l'autonomia dei funzionari pubblici, che hanno autonomia gestionale, per cui se il comandante è libero di fare, tra virgolette, quello che ritiene, quindi lasciargli l'autovelox o meno... E idem per la funzionaria, l'autonomia di decidere la cifra del bando a suo piacimento. Ma io ripeto, l'ho fatta per risparmiare soldi del comune, non perché, sì, me li sia messi in tasca la differenza. Non so, io credo se un sindaco vede che può risparmiare, sia giusto che lo dica, sono sempre soldi pubblici che poi si usano a fare altro. E anche le imboscate dei vigili, insomma, se non sono tra le indicazioni dell'amministrazione, quando diventano continue e pressanti, io penso di avere il diritto di dirgli fermati e fai altro. Le priorità, però mi scusi, io a questo punto non capisco una cosa, cioè lei contesta che ci siano delle regole sbagliate, delle procedure troppo stringenti che ingabbiano il lavoro per esempio di un sindaco come lei, e quindi vorrebbe cambiare queste regole, oppure la sua lettera è, diciamo, è simbolica a Napolitano per chiedere, non lo so, un intervento, anche lei una grazia come Berlusconi, non lo so. No, la grazia dobbiamo prima essere condannati, quindi tocco ferro, visto che siamo a radio, non si vede. No, io diciamo, nel merito credo che il sindaco, quello che le ho detto, possa e debba potersi comportare, ma insomma voglio spiegarlo all'interno del processo, da cui non è che voglia scappare, anzi prima inizia per me e meglio è, perché questa attesa e questa pena preventiva la considero pesante, non potendomi ancora difendere. Sì. Ma a Napolitano io ho fatto presente che mi sembra, insomma, abbastanza anomalo che un sindaco venga allontanato già da 4 mesi dal proprio comune. Vabbè, questo ce l'ha già detto. Senta, però lei ha... semplicemente tutto, l'aveva già detto. Certo. Lei ha scritto anche, credo, da qualche parte, pago per aver detto no al blitz del fisco, che tutti si ricordano perché era uno di quelli primi del governo Monti. Ma in verità non è che ho detto così, io sotto vicenda, anche per sfogarmi, ho scritto un libro e su questo libro ho raccontato i miei 6 anni da sindaco, ho raccontato cosa vuol dire fare il sindaco e tutte le battaglie che abbiamo fatto, tra cui insomma gli episodi più eclatanti, c'è anche quello, ma insomma io non ho mai detto che sto pagando, non voglio neanche credere, insomma, di vivere in un paese dove la giustizia dopo ti va a far pagare prese di posizioni di natura politica, giuste o sbagliate, poi per l'amor di Dio si può discutere. Hanno estrapolato, diciamo, dal libro uno dei tanti episodi che ci sono contenuti e quindi insomma c'è stato questo collegamento, ma che non ho fatto io insomma spero che non sia proprio così. Senta, ma invece i suoi concittadini cosa le dicono? Perché per esempio questa cosa dell'autovelox immagino che l'avrà resa un po' più popolare rispetto ad altri sindaci o ad altre o al comandante dei vigili che voleva mettere l'autovelox da sì, tutte le parti. Quello diciamo che mi ha fatto guadagnare qualche punto, anche perché tanti dicevano: pensavo foste voi Carogna che davano indicazioni di martellare. Noi invece abbiamo sempre detto di far prevenzione, di essere ben visibili, insomma, di avere un approccio diverso. In realtà la gente mi è molto solidale, mi invita a tenere duro, insomma, a non dimettermi, anche perché per me sarebbe la cosa più facile, se mi dimettessi tornerei subito libero, tornerei a casa, insomma, da tanti punti di vista sarebbe una scelta Senta, conveniente. Ma lei tra l'altro è senza stipendio da sindaco, come fa adesso a mantenersi lì in esilio? Diciamo che io speravo, intanto sto diciamo facendo fronte con i risparmi che avevo messo via in questi anni. Sì. Chiaramente se questa misura dovesse essere confermata anche in Cassazione, dove se ne discuterà il 22 ottobre, e sapendo che può durare fino a 3 anni questa misura dell'esilio, dovrò evidentemente trovare un'attività che però non può essere nel mio paese, non può essere l'attività della mia famiglia, quindi qualcosa mi inventerò sicuramente, non starò qui con le mani in mano. Va bene, in bocca al lupo al sindaco Andrea Franceschi di Cortina. Non è che abbiamo sposato la sua tesi rispetto a quella delle inchieste in corso. Volevamo però sentire un caso così, un po' strano, eh? And now, the good news! Vuoi investire per far crescere il business della tua azienda, ma non hai liquidità? Puoi sempre offrire in cambio di quello che ti serve un prodotto o un servizio. È l'idea della BXB di Brescia, che ha creato un network di quasi 3.000 imprese disponibili al baratto aziendale per superare la crisi. Dal baratro al barter. TG3. In corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Letta e Angelino Alfano. L'ultimatum di Berlusconi, segnali entro 10 giorni o è la crisi. Letta, paradossale far cadere il governo ora. Stiamo vedendo la ripresa. Conto sulla responsabilità di tutti. Il PD, se si rompe, è colpa del PDL. Giovannini, una crisi ora è l'ultima cosa che ci serve. Primi interventi, esodati, cassa integrazione e pensioni. Non c'è bisogno di una manovra correttiva. In Siria la denuncia dei ribelli, massacro alla periferia di Damasco, centinaia di vittime uccise dal gas nervino, immagini terribili, ma il regime nega. 35 anni di carcere per Bradley Manning, il soldato che ha passato migliaia di documenti militari e diplomatici ad Assange, poi pubblicati da Wikileaks. Il ministro Chiang è bloccata da una manifestazione di migranti al CIE di Crotone. Vieni a vedere in che condizioni viviamo. E lei, i centri, un problema europeo. E da oggi chi pagherà una multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica avrà uno sconto del 30%, però attenti a versare la cifra esatta. Sarebbe paradossale se l'Italia ha tenuto duro nei momenti più duri della crisi, adesso che invece si possono cogliere gli elementi della ripresa, si può avvicinarsi alla terra promessa, finissimo dentro questioni di politica interna e ci avvitassimo dentro questioni di politica interna. C'è una tale urgenza che non abbiamo fatto nemmeno vacanze quest'anno. Abbiamo lavorato tutto il mese, continuiamo a lavorare tutto il mese. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri, mercoledì 28 ci sarà un importante Consiglio dei Ministri su tutti i temi di natura fiscale. Anno 1984, la terra promessa. Ci sono frasi che possono entrare anche nella storia della politica, della comunicazione politica, tipo la terra promessa, ma non è questo il caso secondo me, perché no, cioè non è questo il caso di Letta, no, qui. Secondo me non entra, però certo che come visione, fossimo stati in campagna elettorale, avesse parlato di terra promessa, sarebbe stata una cosa forte. Adesso siamo qua ad agosto a temporeggiare, il governo non si sa se arriverà a mangiare il panettone e lui parla di terra promessa. Beh, il panettone è già tanto direi in questo tanto. Momento però insomma questa è la frase del giorno, almeno per noi che l'abbiamo sottolineata anche così musicalmente. Adesso però, al di là delle terre promesse, sentiamo le schermaglie che vanno avanti tra il PD e il PDL in vista di questo benedetto voto in giunta delle immunità su Berlusconi. Così Lara Comi. Molti cittadini hanno avuto però delle condizioni differenti, ovvero quello di commutare il reato in amministrativo. Molti personaggi famosi che hanno fatto frode fiscale, uno mi viene in mente Valentino Rossi, se vogliamo citarne uno, che stimo per carità, però in molti personaggi questo non è avvenuto. Ma Valentino Rossi corre con la moto e non fa politica, cosa, non era presidente. Però no, scusate, la legge deve essere uguale per tutti. Se siamo all'inizio, già facciamo parliamoci. La legge deve essere uguale per tutti, non lo dire a me. A maggior ragione, la legge deve essere uguale per tutti. Perché, dice Beppe Grillo sul suo blog, Comunione e Liberazione? Cos'è Comunione e Liberazione? Perché tutti i politici, tutti gli anni, i presidenti del Consiglio, sempre, i ministri, vanno lì? Meeting, stiamo parlando? Il meeting di Rimini. E Beppe Grillo ha scritto questo post attaccando il meeting, accusandolo insomma di essere una lobby oscura che non si capisce bene cosa sta a fare e perché tutti vanno ad omaggiarli, i politici, come se ci fosse uno scambio o qualche cosa. Questo è quello che adombra Beppe Grillo. Gli organizzatori hanno risposto dicendo: per noi il bene comune è una cosa seria. Il ministro Lupi ha detto pure lui che queste frasi di Beppe Grillo sono stupidate dette dal lettino della Beauty Farm. Sentiamo un onorevole Grillina che rincara la dose, l'onorevole Ciprini su CL. Comunione e fatturazione, commissione e lottizzazione è una setta catto-affarista che attraverso il braccio armato nell'economia, ovvero la compagnia delle opere, con vergognosa ipocrisia e spudoratezza sfrutta il brand di Dio per perseguire meri interessi concreti, terreni, di natura economica e non certo spirituale. Insieme noi troveremo una terra promessa. Don Giustani voleva portare la Chiesa nella società. I suoi successori hanno trasformato la Chiesa in una società per azioni, con la benedizione dei politici e non certo con quella di Gesù Cristo. Questa era l'onorevole Ciprini. Bisogna anche dire, per onor del vero, per amore della precisione, sennò poi dicono che siamo sgrammaticati e non diciamo le cose, che questo intervento di ieri alla Camera dell'onorevole Ciprini era in realtà fuori tema, questo intervento grillino, perché l'argomento contestato tra l'altro dagli stessi esponenti del 5 Stelle era il femminicidio, che doveva essere incardinato alla legge contro il femminicidio alla Camera, nelle commissioni, e c'è stato spazio anche per un intervento come questo che c'entrava poco, però nel senso che non femminicidio, ma perché parla di Gesù, perché chiude su Gesù, perché chiude su Gesù e parla di CL, che non si capisce perché in un dibattito sul femminicidio lei si sia messa a parlare di Comunione e Liberazione. Però vabbè, questo era lo stato dell'arte, visto che Grillo oggi ha rincarato lui stesso la dose contro CL. Perché i ministri vanno lì a omaggiare il potere della Chiesa? Questo in sostanza quello che dice Grillo. Adesso che facciamo? Facciamo sentire, sì, anche Salvini, che ieri abbiamo intervistato pure noi, e ha confermato che da settembre partirà la campagna della Lega per accogliere le firme contro il Ministero dell'Integrazione, in sostanza per chiederne l'abolizione. In autunno metteremo in migliaia di piazze i gazebo per fermare l'azione di questa signora, perché le cittadinanze non si regalano al primo che passa. Ed oggi dedichiamo invece il nostro punto di vista strambo, che come sempre ogni sera a quest'ora vogliamo portare all'attenzione del pubblico un'idea diversa, un punto di vista sul mondo un po' diverso, non allineato rispetto ai soliti commenti che sentiamo, a una vicenda particolare che riguarda il sindaco di Monte Silvano. Siamo in provincia di Pescara e parliamo di contenimento, lotta alla prostituzione, qualcosa del genere. Buonasera intanto al sindaco Attilio Di Mattia. Buonasera a tutti. Oh, mi scrivono tra l'altro dalla redazione che lei ha la doppia testa del PD e dei radicali, cioè ha questa doppia veste. Sì, politicamente parlando. Politicamente parlando, sì. Montesilvano, Marco, il territorio liberale all'interno del PD. Ecco. Esiste ancora questa alleanza tra i radicali e il PD, perché sembrava morta ai tempi di Veltroni, invece lei la porta avanti. Sì, la porta avanti. Quanti abitanti fa Montesilvano? Montesilvano d'inverno arriva a 53.000 e d'estate ha anche dei picchi da 80.000 abitanti. Quindi insomma d'estate parliamo di una cittadina medio-grande. Avete il problema della prostituzione su strada? almeno da quello che lei vuol fare, perché leggiamo che in qualche modo lei sta proponendo quello che è stato fatto da poco a Zurigo, cioè di istituire le box del sesso. Ci spieghi un po'? Sì, sì, Montesilvano è una città del Medio Adriatico e ha il grave problema della prostituzione su strada, con i gravi problemi che possono avere col decoro urbano. Le tante persone che vengono nella mia città purtroppo devono vedere, diciamo, queste donne per strada, ecco. È anche una questione anche di sfruttamento con tutto che c'è legato con la criminalità organizzata, ecco. Io ho tentato di fare tutto come altri sindaci, quindi molti altri sindaci sia sulla costa adriatica, sì, ma non solo, abbiamo questo grave problema. Ho provato con ordinanze di ogni tipo, ordinanze sulla velocità. Ci hanno provato in tanti, sì, da questo punto di vista si può consolare. Che tipo di ordinanze aveva provato a fare lei? Ho provato a fare quelle sulla sosta a prescindere con il divieto, ho provato anche a utilizzare delle tematiche che hanno a che fare con la videosorveglianza e anche le forze dell'ordine, purtroppo le leggi nazionali che abbiamo non hanno strumenti giuridici effettivi, perché magari le portano in caserma e dopo 2 ore sono lì fuori. Quindi ho visto questa bellissima idea, a me tutto ciò perché non esiste reato, ricordiamolo, di prostituzione quanto quello di favoreggiamento, sì, sfruttamento. Esatto, sì. Quindi no, diciamo, questa mia cosa, io ho visto questa cosa di Zurigo che funzionerà nella nazione il 28, ma in altre città anche sempre del Mitteleuropa, insomma Germania, già funzionano, però con le visioni dell'economia di scala, cioè cerchiamo di portare tutto il fenomeno in una zona in modo che non si dia un disturbo al turismo. Ecco, a me tutto ciò che funziona nel mondo interessa, quindi ho cercato di... Cioè lei dice questa cosa che stanno facendo a Zurigo, che potrebbe funzionare o che hanno fatto anche in altre città, è una cosa interessante, perché non farla anche a Montesilvano? Però diciamo esattamente che cos'è che hanno fatto a Zurigo, perché io sono andato a guardare gli articoli che ne parlano. Hanno creato 9 box, 4 parcheggi per camper, costruiti in un quartiere della città, saranno inaugurati il 26 di agosto e consentiranno alle 40 lucciole del famoso marciapiede in questione di appartarsi lì con i clienti. Certo, come se fosse un drive-thru all'aperto con dei garage, quindi con anche delle macchinette per profilattici, docce addirittura, quindi un posto dove diciamo le prostitute possono fare il loro lavoro liberamente, dato che la prostituzione c'è stata, c'è e per sempre ci sarà, però una soluzione bisogna trovarla. Ecco, questa era anche una provocazione soprattutto nei confronti del legislatore. C'è questa, la legislazione sul tema è abbastanza nel limbo. Però poi guardi che oltre alla provocazione potrebbe anche essere, non lo so, io non lo so, però una soluzione, perché magari non fare un referendum con i suoi concittadini, sì, per istituire questa cosa che comunque... Guardi, c'è il giornale locale, il Centro, sì, sta facendo un sondaggio, sì, è partito poche ore fa e in pochi minuti quasi il 90% del sondaggio, era partito da questo sondaggio online, sono favorevoli. Ecco, ha visto, questo potrebbe rincuorarla, insomma. Fra l'altro nessuno potrebbe dire che si tratta di case chiuse, perché sarebbero solo dei box aperti. Case chiuse con box, direi. Case con box. Ci sono tanti cittadini che vengono qui sotto al comune e dicono: ehi, sindaco, ho dei garage, li voglio mettere a disposizione. Perché sperano di farci qualche affare. Ma che non ho capito è, sì, dov'è che li mette questi box? Cioè, li mette tutti in un punto preciso e quindi la questione è che la prostituzione si sposta tutta in quel posto lì? Sì, e poi invece di essere dislocata su più territori, sarebbe in un unico territorio, sarebbe molto più facile da controllare. Però nel momento che è controllo, diciamo che se l'interesse è il controllo, chi svolge la professione non è molto interessato probabilmente al controllo, perché ha paura di essere controllato. Ma un controllo blando. Ma se sei un cliente, anche il controllo blando, se sei un cliente alla moglie è difficile dire: guarda, è stato solo blando come controllo, mi hanno beccato dentro del box con una signorina. Però è un controllo blando, voglio dire, facciamo un divorzio blando. Però sindaco, questa domanda di Gabardini non è male, cioè la polizia cosa farebbe? Dovrebbe non intervenire in quel caso lì quando siamo nel box? Guardi, parlando, perché ovviamente c'è questo tema della legge nazionale, che tra parentesi io da sabato inizierò, cioè, a prendere le firme per il referendum per l'abrogazione parziale della legge Merlin che sulle case chiuse, che è un tema diciamo tangente a questo, però sì, diciamo riecheggia lo stesso tema, dall'articolo 1, articolo 2, articolo 7, 500.000 firme entro settembre. Comunque, certo, ad oggi la scucitura sarebbe questa, non farla intendere come un box sesso per le prostitute, ma un box sesso per coppie, insomma, ecco, vederla in questo modo, per le coppie giovani. Che, poi di che coppie si tratta, ah, dice giustamente, come nessuno va a indagare. Cioè per le coppie giovani che non hanno la casa, diciamo. Che non hanno la casa, che, sai, i teenager o persone che non hanno la casa, capita spesso. Certo, sì. E quindi, a questo ci hanno pensato anche altri sindaci. Per esempio, l'associazione dei motel, vorrei sapere come l'ha presa però. Cosa? L'associazione dei motel della zona. Guardi, ancora si esprimono, ma... Sto scherzando comunque, non si preoccupi. Va bene, sindaco, abbiamo capito che insomma non c'è ancora molto di concreto lì dalle parti di Montesilvano. La sua è un'idea, una provocazione, un consiglio. Si vada a Zurigo a studiare bene com'è la cosa, e se perché l'idea potrebbe non essere peregrina, e se si incastra con le leggi italiane potrebbe diventare Montesilvano la prima città italiana dove si trova una mezza soluzione a questa questione qua. Verissimo, verissimo. In bocca al lupo. Crepi, grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. A risentirci, a presto, grazie. Questo era Attilio Di Mattia. Non ho parlato subito perché le nostre regole di ingaggio, diciamo, dello stagista sono interpretabili un po' come la legge Severino. Direi. Perché ci la vera domanda zone è grigie. Se il punto di vista strano è, diciamo, un politico, lo stagista può far domande o non può far domande? In questo caso però era un politico che interveniva come punto di vista così, diciamo, fuori dal core, quindi lo stagista poteva fare domande. Ho non fatto... ci sono cartellini rossi magnifico, o gialli. Magnifico, ne sono felice. And now, the good news! Se sei disoccupato o cassa integrato, lo spettacolo è gratis. Almeno al Teatro Stalker, nel quartiere Le Vallette di Torino. Attraverso questa iniziativa, la compagnia Stalker vuole favorire l'accesso alla cultura anche per chi è in difficoltà economiche. Il biglietto è scontato, ma speriamo che non lo sia anche la trama. E allora abbiamo gli ascoltatori in linea, ce ne sono un bel po', cominciamo subito a sentirli con Gianluca che ci chiama da Bologna. Buonasera Gianluca. Buonasera. Prego. Vorrei porre una domanda che mi sembra provocatoria. Soltanto 4 mesi fa c'è stato il tentativo di eleggere un presidente della Repubblica che non fosse napoletano. Il PD, dopo aver deciso di votare il suo padre fondatore, il padre nobile Prodi, si è poi trovato nel momento dell'elezione con 101 deputati o senatori o esponenti delle regioni che hanno detto no. Di questi 101 nessuno ha avuto il coraggio di dire io sono uno di quei 101. Sono le stesse persone che in questi giorni parlano, intervengono, promettono, pontificano. Ci si può fidare di un partito così? Però non lo sapremo mai, perché chi ha fatto quella cosa lì non ce lo dirà mai. Gli altri vero, non lo sanno, oppure se lo sanno li ricoprono. Sì, Gianluca. Se posso aggiungere una piccola cosa. È anche vero che non mi risulta che ci siano giornalisti che incalzano i rappresentanti maggiori o minori del partito, sì, chiedendo innanzitutto nel momento... Secondo loro chi sono questi 101? Voi, chi è? Sei stato tu? Potrebbe diventare un tormentone ogni volta che abbiamo un ospite del PD, magari la prendiamo sul serio. Ma poi non si sa mai se dicono la verità o meno, quindi diventa difficile. È una provocazione che secondo me sarebbe indispensabile, anche per il bene del PD stesso probabilmente. Grazie Gianluca, grazie, buona serata. Luigi dalla provincia di Chieti, prego. Sì, buonasera. Eccoci qua. Allora, volevo complimentarmi per la trasmissione e inoltre dare tutto il mio appoggio se ha detto la verità, se quello che ha detto in trasmissione risulta vero, al sindaco di Madonna di Campiglio. Di Cortina d'Ampezzo, mi scusi. Ritengo che se le sue parole siano vere, lui per me si è comportato da cittadino onesto e soprattutto che cerca di aiutare la popolazione. A quale parte del suo discorso si riferisce in particolare lei? Soprattutto a quella in cui, per dire, anche forse andando oltre quelli che sono i suoi poteri, al proprio comandante di vigili ha detto: non stare con l'autovelox, vai in centro a presidiare il centro. Ricordiamoci, io faccio parte delle forze dell'ordine. Ah, lei dico, lavora con le forze dell'ordine, Luigi? Esatto. Sì. Io dico, il nostro codice della strada, sì, della strada prevede non un codice repressivo, ma un codice che vada a tutelare e soprattutto a essere garante di ciò che deve essere la strada. Quindi io controllo, non posso essere repressivo. Vabbè, però questo è un discorso in generale, però c'è anche la repressione del comportamento sbagliato, le multe. Sicuramente, ma una volta che io fa mi parte accorgo, proprio della insomma, vabbè, gli autovelox non stanno simpatici a nessuno, questo no. Però forse in qualche punto ci vogliono. Il sindaco l'ha fatto pure in questa situazione economica in cui la gente giustamente non è così contenta di ricevere 150-160 euro di multa perché supera di 10 km orari il limite. Comunque, sì, ripeto, è una mia opinione. Ma infatti avevamo pronosticato tanta popolarità al sindaco di Cortina proprio anche per questo aspetto qua. Grazie. Dopo volevo inoltre aggiungere la mia opinione su quella che ormai sento dalla sentenza di Berlusconi. Stiamo ancora parlando di nuovo di dargli una soluzione, un lascia passare. Io vorrei che le persone siano uguali tutti davanti alla legge, tutti quanti. Non ci può essere uno diverso dall'altro, perché quindi non è giusto. Quindi una persona che ha subito 3 gradi di giudizio non può assolutamente, io dico in altri paesi democratici, normali, come può essere la Germania, come può essere l'Inghilterra, come può essere l'America, un altro politico a questo punto qua si sarebbe dimesso da solo. Non ci sarebbe nemmeno l'autorizzazione a cacciarlo fuori dal Senato, no, si sarebbe dimesso. In Inghilterra si è dimesso un ministro perché ha dichiarato di aver copiato parte della sua tesi. Va bene, Luigi, questa è una DVD porno. È una tesi che c'è, in effetti, e quindi anche la sua. Benissimo, grazie anche a lei. Andiamo a Roma, dove ci chiama Giovanna. Buonasera. Sì, buonasera. Posso intervenire su 2 cose della prima parte della trasmissione? Certo. Allora, i 2 punti sono entrambi, diciamo, politici. Il primo è che quando è intervenuto la persona del PSI, ora non ricordo bene il nome, che ha Buemi, l'onorevole senatore Enrico Buemi. Esattamente, che ha fatto un'esposizione molto chiara, molto intellettualmente onesta su quelle che possono essere le prospettive dell'esame della faccenda Berlusconi prossima. E posso permettermi di commentare un suo commento. Lo dica, facciata. Dice, è un preambolo lunghissimo, questo, signora. Per me il quadro è chiaro, però poi per gli altri o per quello che sarà la valutazione, eccetera. Allora io trovo opinabile, mi scusi, che lei dica che per lei il quadro è chiaro. Ma per me chi? Non io? Non si capisce bene come fa lei ad avere un quadro chiaro. Io ho detto che il quadro è chiaro? Sì, ha detto per me il quadro è chiaro. Nel contesto di quella lunga e documentata, secondo me, sì, posizione di quella persona del PSI. Ma guardi, se ho detto il quadro è chiaro, scusi Giovanna, se ho detto che il quadro è chiaro, forse non volevo dirlo, perché io confesso che anch'io non ci ho capito molto in questa questione della legge Severino. Per lei parlava, non sono un costituzionalista. Il quadro chiaro, nel senso che è chiaro il quadro della posizione di Berlusconi e di tutto quello che sta succedendo, quindi mi sembra un po' opinabile, però lei è il conduttore. Non lo so, carità, ho detto questa cosa, non me la ricordo di averla detta, perché ripeto. Detta, non mi sembra chiaro il quadro, sinceramente, quindi che io l'abbia detto. Ecco, il secondo punto è più importante, sono sintetica ed è un contributo personale. Rispondo a quell'ascoltatore, sempre della prima parte, che aveva sentenziato, come molti in questo periodo, che in 20 anni, e naturalmente lui si riferisce a Berlusconi, quando poi al netto non sono 20 anni, io premetto che non ho tessere di partito. Ma in che senso non sono 20 anni? No, di governo, di governo. 20 anni sono 20 anni, ma sono 9 e mezzo. Sì, va bene. L'ha fatti quell'altro, più un governo misto. Sì. Facciamo al netto molto meno. Ma credo che nei 20 anni ci mette sintetica non è, signora, questo è sicuro. Non dica sono sintetica. Avanti. Ecco, allora il punto è questo: io porto il contributo, sono un po' grande. Di tutti i governi che ho visto, compresi quelli degli ultimi 20 anni, l'unico governo che mi ha raddoppiato la pensione minima, quindi è un contributo fattuale, da 500.000 lire a 1 milione, è il primo governo Berlusconi. Punto. E parliamo del primo governo, ma nel 94? Esattamente. Quindi nell'ambito dei 20 anni, giusto? Sì, sì, sì, va bene. Ecco, io grazie, sono un caso, e con me penso anche ottimo. Altri. Ottimo, è ottimo. Penso anche altri, ho il cedolino. Ma di sicuro che ce ne sono anche altri, sono anche altri. Ma non è che dal 94 ad oggi non sono state fatte altre cose, magari anche peggio di quelle. Però questa è una, va bene, grazie Giovanni. Va bene, buonasera. Benissimo, benissimo. Vincenzo da Salerno, buonasera. Sì, buonasera, salve. Eccolo qua. Salve, senta... Io faccio una valutazione esterna perché da quando è uscito Berlusconi non ho più votato. Ma per nessuno, perché da non quando è uscito in che senso? Dal 94 che non vado a votare. Ah, da quando è entrato allora, non da quando è uscito. Beh, va bene, dipende dove uno si trova effettivamente. Chiedo scusa. niente. Mi diciamo quando è uscito e voi dite quando è entrato. Vabbè, la stessa cosa. Parlo da uno che lavora con l'80% del proprio lavoro con l'estero, in paesi anglosassoni. La settimana scorsa ero a Londra. È lei che è uscito, quindi, in realtà, diciamo. Lui è entrato, lei è uscito, è andato all'estero. Sì, certamente. Va bene. Non, essendo di destra puro, non ho reputato nessuna di queste schifezze che ci sono politicamente in Italia da oltre 20 anni. No, non abbiamo capito. No. Essendo lei di destra? Non ho reputato più opportuno votare nessuna di queste schifezze che noi abbiamo come politici. Nel senso che Berlusconi era troppo poco di destra. Ma è un'altra schifezza come un'altra. Va bene. Sono tutte schifezze. Comunque, era Londra. No. Vado avanti. Vincenzo, va bene. Arriviamo però a sintesi di questo intervento. Nella metropolitana ho incontrato non uno, ma due ministri. Sì. Mm. La cosa strana... Cioè che i ministri vanno in metropolitana, va bene. E a coppie soprattutto. È uno. Poi, scapendo un po' di diritto anglosassone... che ho dei legali che mi curano. Ma è una storia lunghissima, però. No, molto stretta. I processi di Berlusconi, come tanti altri in Italia, in un qualunque paese anglosassone, non avrebbero neanche ragione di esistere. Va bene, perché sono infondati, in quanto? Privi di fondamento, non lo so. E sono privi di fondamento e tutti i processi. Non so se questa cosa ha qualcosa a che fare con i ministri in metropolitana, non credo. Non lo so, infatti era interessante. Sembrava che quella fosse l'argomentazione. E chi sono poi questi due ministri? Uno era il primo ministro, come si chiama, che non mi ricordo. Sì, vabbè, ma non ci interessa, non ce ne frega nulla di chiaro. Il primo ministro... Sì, ma gente che cammina così normalmente per le strade di Londra. Ah. Non hanno bisogno di scorte come tanti nostri big... Va bene, Vincenzo, questo è un fatto che lei ci ha raccontato. Grazie, buona serata. No, stringiamo perché qua se no stiamo. Ma è bellissimo, cioè lui incontra il primo ministro inglese in metropolitana che gli racconta: guardi, che da noi non ci sarebbero i processi a Berlusconi. No, non credo. Questa è una. L'hai fatto tu questa associazione. E invece abbiamo un altro gradito ospite, lo salutiamo subito: il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buonasera. Buonasera a lei. Ha sentito questo concittadino di Salerno, cioè Salerno è un'altra città, però insomma, che faceva un po' di paragoni con Londra. Vabbè, se ne possono dire di cose. Con lei invece parliamo di cosa? L'ultima polemica che l'ha investita è questa di suo fratello, che dovrebbe avere un ruolo nel Forum delle Culture. Però qualcuno la contesta, tra l'altro anche un suo ex compagno di strada, come l'ex magistrato Raffaele Cantone, che dice... Questa volta De Magistris non lo appoggio. Che succede? Ma innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, a Napoli le polemiche magari fossero solo queste e sono tante. È difficile sintetizzare, ma lo dico in due parole. Mio fratello Claudio collabora con me dal momento in cui ho iniziato a fare attività politica, è stato determinante per la mia campagna elettorale, insomma, non avendo io strutture e apparati alle spalle. Da 2 anni e mezzo collabora a titolo gratuito. E anche questo ha sollevato polemiche, non so per quale motivo, nel momento in cui io l'avevo considerato un fatto rivoluzionario, perché negli staff del sindaco, come molti sanno, si può a livello fiduciario contrattualizzare chiunque, quindi la persona anche di maggiore fiducia, come può essere in questo caso mio fratello, un amico. Però qua parliamo di un altro ruolo. Adesso. Questo è un altro ruolo che esatto, che stava arrivando al punto, che non dipende direttamente dal comune, c'è un'ipotesi, non è nulla di... di concreto, ma lui viene scelto, se dovesse essere questa l'ipotesi, da parte, ripeto, non del sindaco ma di altri, esclusivamente in base alle sue competenze. Perché suo fratello si occupa di organizzare eventi culturali e in questo campo è abbastanza accreditato, insomma. È il suo lavoro, questo, nel senso, lui prima di collaborare con me era, diciamo, direttore artistico, manager, presente a Napoli. Lui ha portato Bruce Springsteen, il Giro d'Italia e tantissime altre cose che abbiamo fatto. Io credo che le persone, indipendentemente dal cognome, debbano essere giudicate esclusivamente per la competenza, per l'onestà e dalle mani pulite. Là non c'è un divieto, anzi, ripeto, molti mi contestano che io dall'inizio avrei dovuto contrattualizzarlo. Non l'ho voluto fare perché sono contrario al fatto che lui debba possa lavorare direttamente col sindaco, l'ho trovato inopportuno. Ma se in questi 5 anni lui in qualche modo collaborerà per la città di Napoli, non lo trovo affatto uno scandalo. Però non c'è una questione di opportunità per la quale addirittura suo fratello magari potrebbe essere penalizzato, perché avrebbe lavorato se non c'era Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, però adesso che c'è Claudio De Magistris dovrebbe fare un passo indietro, perché per una questione proprio di opportunità, perché per togliere il dubbio al fatto che sia stato privilegiato perché è suo fratello, e la gente questo lo pensa. Il tema si pone, io per adesso mi sento, devo dire, in difficoltà con mio fratello, perché da 2 anni e mezzo lui praticamente, sostanzialmente, rispetto a prima che guadagnava, da 2 anni e mezzo lo fa gratis. Quindi il problema c'è sia per l'ingiustizia, secondo me, tutto sommato, di quello che è accaduto in questi 2 anni e mezzo, e poi si pone sicuramente un problema di opportunità. Ecco perché io in questi 2 anni e mezzo ho deciso, pur prendendomi delle critiche ingiuste, secondo me, di farlo gratuitamente. Il problema dell'opportunità c'è, però sono quei temi di cui uno deve riflettere, poi si assume una responsabilità politica e si va avanti. In questo è un tema che comunque decidi, comunque fai, vieni criticato. L'importante, ecco, però, è che lo fai in modo trasparente e in modo chiaro. Vabbè, poi avendo in mente anche le possibili ripercussioni negative, lei questo ha detto di averlo chiaro. Se non fosse però che questo caso, diciamo, arriva da un certo punto di vista ultimo di una serie, cioè ci sono i casi delle dimissioni di membri della sua giunta dall'inizio del mandato, 2 anni fa, da Narducci per non tornare al manager impegnato sulla questione dei rifiuti, Raffaele Rossi. Poi la questione stessa del Forum delle Culture, dove ci sono già le dimissioni di Roberto Vecchioni tempo fa. Sembra che De Magistris sia in crisi, in difficoltà, così scrivono anche alcuni giornali, alcuni retroscena, che non riesce a far squadra, perde un sacco di pezzi. Guardi, mi fa piacere questa domanda, perché io vorrei che di Napoli, oltre di questi temi risponderò subito, si parlasse anche di quello che noi facciamo. Per esempio, la città dei rifiuti. Io mi chiedo, ma come mai nessun media nazionale racconta che da quando io sono diventato sindaco non c'è l'emergenza rifiuti, nonostante io non abbia avuto i soldi di chi mi ha preceduto? Io amministro un comune da 2 anni con 1,5 miliardi di debito, 850 milioni di disavanzo che il centrosinistra che mi ha preceduto governando ha lasciato. Allora io ho utilizzato che cosa? Persone che in un momento di guerra, di emergenza, perché amministrare Napoli, come mi ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti, probabilmente è più complicato di New York. È chiaro che io mi devo scegliere di volta in volta la squadra più idonea. Oggi, per esempio, manager dei rifiuti è Raffaele Del Giudice, ex presidente di Legambiente, una persona eccezionale. Però che cosa si parla? Di Raffaele Rossi, col quale io sono rimasto tra l'altro in buoni rapporti, che probabilmente in un determinato momento storico l'abbiamo ritenuto non all'altezza. Ecco, la cosa che mi dispiace, che bene che si parlano di polemiche, di dimissioni, di indagini della magistratura, perché noi siamo una casa di vetro, però io mi auguro, e perciò la ringrazio, che di Napoli si cominci a parlare anche delle cose, che un sindaco che non appartiene a nessuna lobby, a nessuna apparata, a nessun partito, che non è massone, che non ha nessuno gli protegge le spalle, sta cambiando una città, facendo errori, facendo cose che non si riescono a risolvere, avendo un rapporto difficile con molte componenti. Però anche questo a me farebbe piacere, da sindaco della terza città d'Italia, di quella che è stata la capitale una volta, non solo del Mezzogiorno, si cominciasse finalmente a parlare. Ecco, ho capito, però invece rispondendo... No, io faccio squadra, guardi, noi siamo una squadra compatta, abbiamo una giunta compatta, abbiamo cambiato squadra, come si fa in tutto oggi, quest'anno anche il Napoli ha cambiato squadra, ha tolto Cavani, ha preso Higuain e ha preso altri, e sarà una squadra ancora più forte. Io credo il calcio è sempre una via di fuga che piace a De Magistris, che va allo stadio e si fa vedere. Assolutamente, faccio un paragone, nel senso che io sono il sindaco. Però, scusi, è chiaro che su questa questione del perdere pezzi, lei dice, può succedere, abbiamo cambiato squadra, facciamo... Io non ho partiti, guarda, questa è la cosa diversa. Altri si rivolgono, per esempio... Cioè, ci sono manovre politiche dei partiti che la intralciano, quindi lei è costretto a lavorare più di uno che sta dentro un partito? No, la differenza è questa: io sono stato eletto non con una coalizione di partiti. Sì. I partiti che mi appoggiavano all'epoca erano i DD e Federazione della Sinistra, che oggi stanno fuori dal Parlamento, a differenza di altri amici sindaci che hanno partiti alle spalle. Quindi io di volta in volta devo scegliere le persone che sono più idonee. Una parte della squadra è rimasta la stessa, una parte la sto cambiando, una parte probabilmente cambierà ancora. Quello che è importante secondo me è interrogarsi, ma con questi cambi i problemi in parte si stanno affrontando, si stanno risolvendo. Questo credo sia soprattutto il tema che dovrebbe interessare i cittadini. Parliamo anche di questo, De Magistris. Ho capito, però per esempio l'altro caso, adesso questa è una questione molto napoletana, però sono tutte, diciamo, grane che stanno capitando a Napoli e alla Giunta e al Sindaco. Quello dell'assessore Tommasielli, che lei prima ha sospeso per la questione presunta che avrebbe cancellato delle multe a amici e parenti, questo è ancora da vedere, da giudicare. Poi però la ripresa dicendo che va tutto bene. No, non ho detto che va tutto bene. L'assessore ha chiarito la sua posizione, ha detto che si è semplicemente informata se un suo cognato, che tra l'altro è sindaco di un paese, poteva passare o meno per la ZTL e quindi non avere la multa. Se la magistratura accerterà che invece l'assessore ha commesso reati, ha fatto falso, sarò il primo a cacciarla, ma di fronte a le sue giustificazioni, alle sue spiegazioni, una donna che tra l'altro da 2 anni sta lavorando in modo eccellente e passionale, io credo che sia il sindaco, che non è né un giudice né un prete, quindi non deve né, come dire, perdonare né assolvere, sì, si assume le sue responsabilità politiche. Un assessore in questo caso è rimasto, è una donna, io ho fiducia in lei, se poi si accerterà che ha fatto non un errore come in questo caso, perché io a posto suo non mi sarei nemmeno informato e quindi l'errore l'ha fatto. Ma insomma, un errore di questo tipo rispetto a quello che accade nel panorama politico del nostro paese si può, come dire, andare avanti. Senta, lei ha parlato della questione dei rifiuti, magari facciamo un accenno anche a quello sicuramente. Certo. Poi c'è la questione, credo che lei proprio oggi ha inteso rilanciare il tema della pedonalizzazione del lungomare di Napoli, che è una roba anche questa che ha fatto uscire di senno i non napoletani, perché non riusciamo a capire se era un progetto apprezzato, non apprezzato. C'è stato il problema del palazzo crollato nella strada vicina che ha bloccato tutto, ci sono gli articoli su Repubblica 2 giorni fa, un giornale non nemico pregiudizialmente della vostra giunta, che dice è fallita la pedonalizzazione, caos e traffico lungomare. No, guardi, non è così, poi mi permetto di dire con tutto il rispetto di Repubblica, che non è un giornale amico, ecco, diciamolo così, non sarà nemico ma non è nemmeno amico, ma il tema non sono i giornali che insomma fanno il loro lavoro. La pedonalizzazione di 5 chilometri di lungomare è stato un grande successo, che ha apprezzato. A Napoli era da 20 anni che non si vedevano i turisti che stanno arrivando in questo periodo. È chiaro che ha creato dei problemi che non c'entrano nulla col palazzo crollato, come ovviamente può intuire qualsiasi ascoltatore che ascolta questa intervista. Chiaramente ha creato dei problemi di mobilità, perché sono 5 chilometri, ma è un grande progetto che noi porteremo avanti, creando soprattutto, investendo soprattutto sul trasporto pubblico, sulla metropolitana e sugli altri mezzi. Quindi ascolteremo tutti come abbiamo sempre fatto, ma è un grande successo. Se lei viene a Napoli e si fa 4 passi sul lungomare, non potrà che darmene altro. Però ho visto bene sul suo blog che c'è un progetto approvato dalla Giunta in collaborazione con l'Università, credo, di Napoli, per estendere la pedonalizzazione e fare delle strutture nuove. Sì, adesso non tornate indietro su questa strada. No, insomma, non torniamo indietro. Ovviamente dobbiamo, appunto, come diceva anche lei prima, ci sono dei problemi, quindi dobbiamo da un lato la pedonalizzazione lungomare, dall'altro rafforzare il trasporto pubblico, rivedere alcune cose della ZTL, ma noi pensiamo che una città internazionale come Napoli debba avere molte aree pedonali, perché in quelle aree pedonali si fanno concerti, si fa cultura, si fa teatro. Ecco, cioè noi siamo per farli vivere gli spazi pubblici, quindi non chiudere le persone in casa, ma invogliarle a uscire e fare cultura in città. Ecco, però cosa risponde lei, che insomma ha vinto le elezioni anche contro il PD, contro il PD, non era il candidato del PD alle primarie di Napoli, però che è stato visto come un simbolo anche di quella sinistra lì almeno 2 anni fa, a chi dice che la sinistra si è ridotta a idolatrare le piste ciclabili, non pensa altro che a questi temi qua, come per esempio ha scritto quest'estate De Gregori in un'intervista al Corriere. De Gregori è altro simbolo, per qualcuno forse, della sinistra italiana, cioè che siete troppo concentrati sui grandi eventi culturali, le piste ciclabili, e poco su altri problemi della città. Ma non è così, perché noi siamo concentrati anche sulle cosiddette periferie, il lavoro che si sta facendo a Scampia con tante associazioni, nei quartieri orientali. Noi puntiamo, ad esempio, abbiamo adesso siamo partiti con le gare di 3 grandi progetti che cambieranno completamente il volto di Napoli nella zona orientale, occidentale, nel centro storico. Sono oltre 100 milioni solo di riqualificazione di strade e di illuminazioni. Cioè, noi stiamo veramente cambiando volto. Io vorrei dare questo dato. Napoli, sì, quando io mi sono insediato, era una città fallita, nel senso, come ho detto prima, con quei numeri noi siamo in predissesto. E in 2 anni abbiamo sostanzialmente risanato tutte le società partecipate, eliminando i costi, evitato il fallimento di una città. Cioè, in questi 2 anni non abbiamo potuto nemmeno investire un euro. Ecco perché è stato davvero difficile, come dire, far ripartire questa città. Quindi le critiche io le trovo molto positive quando sono costruttive, quando puntano a migliorare eventuali errori. In quanto al PD, il PD ovviamente aveva un altro candidato alle elezioni, ma io sono molto interessato ad ascoltare anche i loro suggerimenti e le loro critiche. Ma lei si ricandiderà come sindaco di Napoli, anche se manca ancora un po' di tempo? Guardi, mancano 2 anni e mezzo, io questa esperienza è entusiasmante, io lavoro 18 ore al giorno, quindi io non so fra 2 anni e mezzo quale sarà la mia condizione. Se lei me lo chiede oggi, io credo che chi come noi, come me, sta facendo un lavoro strutturale, quindi di grandi cambiamenti, deve per forza pensare a un periodo di 10 anni. Poi se ci sono le condizioni, se la gente lo vorrà, se io sono riuscito a migliorare molto le condizioni, soprattutto delle persone più questo deboli, sì, delle sì, persone sì, più comunque attualmente è un sì. And now, the good news! Nel piccolo comune di Lagnasco, in provincia di Cuneo, da 3 anni sindaco e consiglieri hanno rinunciato allo stipendio, nonostante il bilancio comunale sia inattivo. Dicono, fortunatamente, di non averne bisogno e preferiscono reinvestirli in progetti di pubblica utilità. Speriamo che sia contagioso. Eccoci qua di nuovo in compagnia ancora per qualche istante con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Abbiamo toccato anche l'aspetto importante, quello dei rifiuti, perché quando si parla di Napoli questa questione è sempre, diciamo, incombente. In effetti, da quando è arrivato lei la situazione è profondamente cambiata, i rifiuti non sono più in mezzo alla strada e la raccolta, diciamo, viene fatta. Lei però aveva promesso di arrivare non so più in quanto tempo, forse in un anno, forse era campagna elettorale, l'aveva sparata un po' grossa, al 70% di raccolta differenziata. Oggi a che soglia siete, De Magistris? Ma questo dipende molto appunto dalla situazione economica che noi non conoscevamo. Oggi siamo al 30 e per fine anno arriviamo a coprire praticamente un cittadino su 2, quindi arriviamo a 500.000 di napoletani coperti dal porta a porta. In più sono le isole ecologiche, ci sta la differenziata con le campane e quest'anno inizieranno i lavori del primo impianto di compostaggio per il trattamento della frazione 1. Quindi noi contiamo che a fine mandato di poter avere 2 impianti di compostaggio, di arrivare a soglie molto alte di raccolta differenziata e quindi un no definitivo alle discariche e agli inceneritori. Ecco, perché su questo lei è stato coerente, non ha voluto le discariche non ci sono, ma quelle da adesso non l'avrebbe forse ottenute nessuno, perché si sa quello che succede ogni volta che si propone una discarica. Invece l'inceneritore di Acerra non è in funzione attualmente. No, quello di Acerra sì, che però non è Napoli. Il progetto, cioè, è in funzione ma non è stato esteso. No, Acerra funziona, sì. Funzionava anche prima. Il progetto, diciamo, delle precedenti amministrazioni e anche della giunta regionale era quello di fare l'inceneritore a Napoli, nel quartiere San Giovanni. Io mi sono invece opposto e stiamo dimostrando appunto che non era necessario. Io questo voglio dire e sottolineare, che noi senza soldi, con una città in predissesto, abbiamo eliminato il tema dei rifiuti, che era la grande vergogna di Napoli. Non c'era un turista per strada, c'erano montagne di rifiuti. Questo credo sia finora il più grande. Comunque la soglia, lei diceva, mi scusi se la interrompo, la soglia del 30% è circa quella che ha avuto anche Roma quando ha lasciato Alemanno dice che l'ho presa al 17, l'ho portata mi pare al 30, qualcosa del genere. Lei quando ha preso Napoli, qual era la soglia? Quando l'ho preso era al 16. Al 16 siamo al 30 e ripeto, a fine anno saremo la prima città d'Italia col porta a porta, dovremmo superare Torino arrivando a 500.000, Napoli ha 1 milione di abitanti, quindi già questo sarebbe un risultato eccellente. Il rallentamento che oggettivamente c'è stato rispetto ai propositi della campagna elettorale è dovuto, ripeto, alla situazione economica, cioè noi ci hanno lasciato un buco enorme chi ci ha preceduto. Ho dato prima quei numeri che chi li sa analizzare può intuire che disastro era Napoli prima che io diventassi sindaco. Senta, lei ha detto che al momento attuale, allo stato attuale delle cose, il lavoro di sindaco lo impegna, lo rifarebbe, vorrebbe fare un secondo mandato per avere un orizzonte lungo per lavorare a Napoli, se gli elettori lo consentiranno. Invece le avventure politiche di politica nazionale che l'hanno vista protagonista forse più negli articoli di giornale che non nella realtà, il Movimento Arancione, poi la rivista con Ingroia, Rivoluzione Civile, che lei ha in qualche modo appoggiato, aveva detto è morta Rivoluzione Civile ma non Ingroia, adesso Ingroia non so cosa farà, lei cosa farà da questo punto di vista? Il sindaco solamente per i prossimi 2 anni e mezzo. Quindi non ci sono più velleità di liste, di movimenti? No. Non c'è proprio tempo perché le ho detto i tempi sono 18 ore al giorno, non c'è la possibilità. Quindi possiamo dire che a metà mandato De Magistris cambia passo, si concentra più su Napoli, perché questa è una cosa che è stata detta, lei era distratto dal dibattito nazionale. Non ero distratto, però poteva apparire che un sindaco che si occupa comunque sempre a tempo pieno della città, che però si schiera anche in campagna elettorale per le politiche, poteva apparire una distrazione, questo è stato un errore. Quindi io per i prossimi 2 anni e mezzo non voglio nemmeno apparire distratto e mi concentrerò solo su Napoli. Senta, da ex PM, quale lei è in pensione, che c'è in aspettativa, non so esattamente come funziona. Mi sono dimesso. Questa è un'altra cosa che fanno in pochi. Mi sono dimesso. Questo non lo ricordavo. L'intervista del giudice Esposito della Cassazione dopo la sentenza Mediaset, lei l'avrebbe fatta? L'intervista no, ne ha fatte tante. Detto, io non l'avrei fatta, ma ha detto cose in realtà banali, ovvie, quindi c'è stato solo un eccessivo. Cioè, lei lo difende in qualche modo, Esposito? Io lo difendo perché ha detto cose banali, ovvie, cioè nel senso che per condannare Berlusconi ci dovevano stare la sua consapevolezza. Però ha sbagliato a fare l'intervista perché il tema era troppo, troppo caldo. Cioè, era inopportuna, però non ha infranto. Cioè, il CSM non ha aperto un procedimento, credo, nei suoi confronti. Cosa dovrebbe fare, secondo lei? Ma sai, io non ho molta simpatia per il CSM, che quando fece il processo disciplinare nei miei confronti fece una sentenza tremendamente ingiusta, sbagliata e illegittima. Quindi, non, devo dirle la verità, non mi importa proprio quello che fa il CSM. Io comunque credo che Esposito... tutto sommato abbia detto cose banali, inopportune, però non ha, insomma, cioè se fosse per lei non ci dovrebbe essere una sanzione disciplinare, no. Secondo me non deve essere censurato. Va bene, grazie a De Magistris, grazie a buona serata, grazie, buona serata a voi, buon lavoro, arrivederci, grazie. 25 minuti 800 24 00 24 Gabardini, sono stato volentieri ad ascoltare l'intervista, però è importante perché c'erano di cose da dire con De Magistris. Abbiamo forse i titoli, sì, del TG1, sentiamoli. Faccia a faccia Letta Alfano, il premier su rischi di crisi, confido nel senso di responsabilità di tutti, le difficoltà sono superabili. Il PDL spinge per commutare la pena di Berlusconi, il PD conferma linea dura, il ministro Giovannini, crisi è l'ultima cosa di cui c'è bisogno. Orrore in Siria, i ribelli denunciano attacchi del regime con il gas nervino e mostrano immagini shock, centinaia di morti, ma il governo nega. Wikileaks, la talpa Bradley Manning, condannata a 35 anni di prigione, congedato con disonore, fu lui a passare i documenti riservati ad Assange. Isernia, videotrappola per un piromane, le immagini lo smascherano, è un pompiere ausiliario, ora gli arresti domiciliari. Sconto del 30% a chi paga le multe entro i primi 5 giorni, da oggi le nuove norme sulla contravvenzione. Si intitola This Is Us, il film che racconta il successo travolgente degli One Direction, un viaggio nella vita e nella musica di 5 ragazzi normali diventati un mito per gli adolescenti di tutto il mondo. Eccoci qua, allora riprendiamo con gli ascoltatori che sono in attesa per intervenire, ce ne sono un bel po'. Abbiamo Pippo che ci chiama da Torino. Buonasera. Pronto? Prego. Buonasera. Piacere di essere con voi in trasmissione. Volevo, il mio intervento è nato dalle uscite dell'onorevole Buemi, che in un certo senso, come si diceva precedentemente, non è stato chiaro, no? Io sono un elettore del Partito Democratico e chiaramente supporto il centro-sinistra, non a tutti i costi, come dice Letta giustamente, ma penso che in questo momento, un momento delicatissimo per la nostra democrazia, sia importante che le forze politiche esprimano dei giudizi estremamente chiari affinché anche il proprio elettorato possa così. Ma è il preambolo questo? Pronto? È il preambolo questo? Lei parla un po' come il capogruppo del PD, Speranza. No, prego, prego. Sì. Volevamo solo capire. Così per dire che in effetti la situazione si sta facendo passare per una situazione politica, ma in realtà c'è un aspetto estremamente legato alla giustizia che chiaramente ha il suo. Da un punto di vista politico c'è la liturgia di tutti gli esponenti del PDL che vogliono far passare come in un certo senso eliminazione del proprio leader come l'eliminazione di un personaggio di alto profilo politico. E quindi? In realtà Berlusconi ha avuto 20 anni per fare delle scelte politiche, per cambiare questo paese e di politica non ha fatto niente, tranne che portare avanti i propri interessi e cercare di risolvere le proprie problematiche. Ecco, questo è estremamente grave in questo paese. Che il PDL dica che in questo paese c'è una democrazia perché Berlusconi è stato condannato su stregavi di giudizio, mi sembra che sia una cosa estremamente grave. Va bene. Questo mi sembra che l'abbia già detto, è chiaro. Non so se Gabardini ti interessa attaccarti. Stavo cercando di capire dove si arrivava, non arrivava più di tanto. Era questo il concetto. Stefano da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo parlare sullo stesso tema, però sì. Se me lo concede un secondo su un ascoltatore precedente che parlava di autovelox, volevo dire una cosa, sì. E cioè che non sono contrario agli autovelox, però credo che i limiti di velocità siano veramente poco realistici nelle strade italiane, al punto che neanche la polizia stessa, i carabinieri, insomma le auto di servizio. Ma lei a cosa si riferisce? In città o fuori sull'autostrada? Beh, poi i carabinieri possono andare oltre il limite in teoria perché devono andare a catturare i malviventi. In condizioni normali intendo dire. No, ma io ho parlato anche con le forze dell'ordine più volte, sì. Loro mi dicono che ci sono aspetti burocratici per cui coloro che hanno dei funzionari, insomma, che hanno la gestione di queste cose, per non incorrere magari poi in cause da parte dei automobilisti, tendono ad abbassarli il più possibile. Ma in città quindi, stiamo dicendo, giusto? Come? Ma sta parlando in città o dei 130 in autostrada? No, in generale. Le uscite autostradali, per esempio, a parte che una volta che tu metti una macchina in un flusso autostradale, ad esempio, dovresti cercare di mantenerla a una velocità costante. Vabbè, ma questa è un'utopia. Comunque, dei limiti di velocità si può discutere, anche se bisogna fare delle differenze. Io non sono d'accordo con lei. Cioè, il centro, le strade provinciali, le strade statali, l'autostrada sono situazioni completamente diverse. Sull'autostrada ci sono dei sistemi di sicurezza tali per cui forse il limite di 130 potrebbe anche essere alzato. In città la vedo più difficile, ci sono i pedoni, ci sono le biciclette e aumentare i limiti mi sembra impossibile, tant'è vero che in molte città si ragiona sul contrario, di abbassarli a 30 km. Sì, beh, comunque ecco, io e alzarli molto per le biciclette. Però invece mi sa che Stefano non aveva chiamato per questo. Voleva fare un altro intervento, vediamo se riusciamo. Sì. Sì. No, niente, su Berlusconi io non lo amo come personaggio politico, penso che sia stato devastante per l'Italia, però da un punto di vista giudiziario noi siamo con lui un po' chi è nato prima, l'uovo o la gallina, io un'opinione ce l'ho, ma penso che chiunque si esprima sui processi in generale, se non è un addetto ai lavori, se non ha seguito i processi realmente, ha letto tutte le carte giudiziarie, non può che ridire una pappa che ha ascoltato da altri, io quindi non mi esprimo sui fatti giudiziari di Berlusconi. Cioè lei interviene per dire che non interviene, in pratica. Però va bene, Stefano. Non solo questo, la Racomi però lo paragona, dice perché per lui non sia stata fatta una cosa che è stata fatta per Valentino Rossi ed altri. Però qui lei prende in giro, come fanno spesso i rappresentanti del PDL, i suoi elettori, perché con Valentino Rossi noi parliamo di evasione questa è frode, non c'è stasera, esatto. È una cosa diversa. Loro spesso si comportano così. Allora io più che concentrarmi su Berlusconi vorrei capire i 6 milioni, un tempo anche di più, di elettori berlusconiani, va bene, cosa si aspettano queste persone, perché votano ostinatamente, quasi patologicamente, un questo uomo? Questo noi non possiamo rispondere. Grazie Stefano, speriamo, grazie. Che diventi il nuovo Valentino Rossi. Sergio da Roma. Sergio, buonasera. Eccoci qua. Io sono intervenuto sentendo il primo intervento di l'ascoltatore che si lamentava perché non cambia niente nella sfera dei politici, dei loro stipendi. Lei ha detto no, ma è minima, o qualcosa è cambiato. Poi sentendo anche gli altri interventi dei vari sindaci, cioè qui tentano proprio di prenderci in giro, un sindaco che dice no, sto a casa senza fare niente, vivo fuori paese. E sto toccando i miei risparmi. No, ma Sergio, ma quello era il sindaco di Cortina che era in esilio, cioè al divieto di dimora nel comune. Non è che sta a casa, poi nel senso che non c'ha voglia di andare a Cortina, è che non può andare a Cortina. Poi c'è il sindaco Marino che dice, ma chiede di un aumento. Il sindaco Marino, se prende 6 milioni, come ha detto... Come 6 milioni? Come ha detto 6.000 euro, come ha detto Renzi. L'ha detto però dicendo... che stava bene, dice non lamentiamo. No, Renzi ha detto che stava bene, io ho riferito una cosa all'ascoltatore che diceva non cambia mai nulla, per dire quanto sono diminuiti i stipendi dei consiglieri. Loro niente, non hanno toccato niente. Va bene, Sergio, se lei lo sa, ci mandi un fax con tutte le cose che non sono cambiate e lo leggiamo domani. Lazio. Grazie, buona serata, grazie. Perché se fate così però non c'è gusto, e che c'è la verità in tasca e poi però non senza argomentarla. Sergio? Non c'è più. No. Ma contestava il fatto che avessero detto che alcuni stipendi sono stati diminuiti. Io che ho citato... è vero poi che sia di facciata, che non sia di facciata, che no, sia che non sia abbastanza, quello che vuoi. Io ho citato l'intervista di Marino che dice: guadagno, non mi ricordo se 3.600 o 4.000 euro al mese. Dice: bisognerà porre la questione se un sindaco di una città come Roma deve guadagnare così o può guadagnare di più. Poi è opinabile. Per dire questo, che cosa? Che gli stipendi sono diminuiti, perché anni fa lo stipendio del sindaco di Roma non era questo, era molto più alto, quindi questo è il fatto, no? Poi uno può commentare e dire non basta, però il fatto resta. Dove andiamo? Elio dalla provincia di Udine. Buonasera. Pronto? Sì. Elio? Pronto, mi sente? Forte e chiaro. Sì. Benissimo. Ho chiamato a proposito dell'autovelox prima, perché sugli autovelox, secondo me, a parte certi sindaci che saranno anche bravi, altri usano l'autovelox come pesca strascico. Bella questa, pesca strascico. Soldi. Sì. Io sono stato multato perché andavo in Lunigiana a 59 km all'ora dove c'era 50 km all'ora. E vabbè, ho pagato. Dopo che ho pagato, dopo due mesi però, mi è arrivata un'altra multa perché non avevo comunicato i miei dati come guidatore. Perché c'era la questione dei punti della patente, là in quel caso bisogna fare quel comunicato. Ora, sì. Io penso che in un paese civile, se uno paga, basta, finito. Elio, hai ragione. Questa è una delle tante cose. Sì. Il nome, seconda multa più alta della prima. Però non facciamo lo sfogatoio. Grazie, Elio. Buona serata. Ma sulle poi multe ci sono i saldi adesso. Ci sono i saldi sulle multe. Tocca correre, andare a prenderle subito. 30% di sconto. 30%, 30%. Non so per quanto. Poi magari scendono al 20%. Quindi conviene prendere una multa oggi, direi. Meglio una multa oggi col 30% piuttosto che domani col 20%. And now, the good news! Marco Actis e Davide Fuggetta, stanchi di essere perennemente precari, all'età di 28 anni si sono inventati un lavoro. Offrono un servizio di Pony Express in bicicletta, sgusciando tra le macchine nel traffico torinese. Le loro consegne sono le più veloci della città e anche le meno inquinanti. Gianni da Roma, buonasera, prego, tocca a lei. Gianni? Sì, buonasera, mi scusi. Eccolo qua, sì. Buonasera. Chiamavo perché trovo la chiamata di De Magistris. Cioè, mi domando se questa gente si rende conto, cammina per strada. Prima di tutto ci vuol far credere che il fratello che faceva il manager di successo a Springsteen a Napoli smette di lavorare, lavora gratis per collaborare con il fratello che magari tra due anni e mezzo non sarà più sindaco e quindi lui sarà un disoccupato, non manda più avanti la famiglia, non guadagna niente, si vede aria, cioè, ma De Magistris sì, no, lui si è trincerato dietro questa cosa, però poi in effetti dopo ha ammesso che c'è una questione di opportunità sul fatto di far lavorare il fratello, perché no, credo che stia cambiando. Ma credo che fosse anche una questione del fatto che le amministrazioni pubbliche sono più lente a pagare, non che proprio lavori gratis, nel senso che ha scelto di lavorare gratis. No, De Magistris ha detto proprio che, che suo fratello ha lavorato gratis per un periodo. Però l'ascoltatore dice giustamente, ha lavorato gratis per un po', poi passa all'incasso dopo. Perché che forse è il peggio del peggio, allora. È quello che pensa la gente. Ed ecco perché ma noi, credo che De Magistris cambierà idea. Comunque, prego. Ma noi dove viviamo? De Magistris c'è scritto Napoli come se fosse un Amsterdam. 5 chilometri di strade pedonali, i rifiuti non ci sono più, nettezza urbana differenziata. Beh, 30%, a fare esempio di Amsterdam, e noi pensiamo subito invece alla droga, alle prostitute, quindi è un esempio che non abbiamo capito. Io in realtà penso ad Amsterdam come una città pulita, ordinata, di gente che vive in bicicletta, senza spazzatura per strada, dove non vieni derubato e dove appena arrivi a Napoli, ad Amsterdam, il tassista non ti dice. Ma chi è che ha detto Amsterdam? Lei o De Magistris? L'ho detto io. Allora vabbè, però. Beh, no, ma come esempio di non venire mai derubati, Amsterdam non l'avrei scelta, ma comunque va benissimo. Avrei potuto dire Amburgo, avrei potuto dire Bruxelles, cioè voglio dire, l'immagine di De Magistris è un po' diversa dall'immagine che ha il cittadino comune Napoli. Ma l'immagine di che cosa? Di Napoli, sta dicendo? Sì, della città di Napoli. Ma lei è di Napoli? De Magistris ci ha descritto Napoli. Sì. Ma lei c'è stato recentemente a Napoli? No, vabbè, ha detto regolarmente a Napoli. Oh. Ma lei quando va a Napoli, il tassista, la prima cosa che le dice è di togliersi l'orologio. Sì. Perché? Perché a Napoli siamo tutti allegri. Perché così può barare sul tassametro. questa è buona. Grazie, buona serata. Allora, facciamo ancora un ascoltatore. Vai, Enrico da Bergamo, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Io volevo riprendere un attimino il discorso di quell'operatore della forza pubblica che parlava, per quanto riguarda Berlusconi, i 3 gradi di giudizio che ha subito e quindi dovrebbe farsi in qualche modo da parte in un paese normale. Questo avverrebbe. Io infatti stavo facendo una piccola riflessione. In un paese normale il Consiglio Superiore della Magistratura non difenderebbe sempre e comunque i giudici. In un paese normale non esisterebbero giudici che sono iscritti a movimenti politici come Magistratura Democratica o come altri componenti associazioni, che non sono associazioni di categoria ma sono vere e proprie associazioni politiche. Beh, però tutti i giudici hanno anche personalmente una propria posizione politica, vuol dire sia di sinistra sia di destra ce li hanno. Non dovrebbero esprimerla, visto che poi vanno a giudicare anche dei politici. Vabbè, in pizzeria con Franco Nero, capito? Non è che la stanno esprimendo. Franco Nero non è il primo che dichiara che quel presidente di Cassazione abbia parlato preventivamente contro Berlusconi politico e contro Berlusconi uomo. In un paese normale, come faceva esempio quel signore in Inghilterra, un magistrato di quel genere avrebbe quantomeno non espresso giudizio. Vabbè, ma nello stesso paese normale, cioè in Inghilterra, ci si dimette per una contravvenzione in autostrada. Lei ha mai visto un magistrato dimettersi o un magistrato che ha sbagliato essere giudicato dal Consiglio Superiore della Magistratura? No. Ecco, neanche io. Non ho capito, qual è la domanda? La domanda è questa, che in un paese normale tutte queste cose non avvengono e quindi sono convinto che Berlusconi sia una delle tante vittime. In un paese normale... Sì. Vabbè, ma adesso fatti ripetere questo refrain che è molto bello di un paese normale. È un monologo lunghissimo. Abbiamo capito l'intervento ascoltatore, grazie. Comunque De Magistris è un magistrato che si è dimesso, per dirne uno. Non si può aprire adesso il capitolo alle 8:20 su questo tema qua, perché sennò facciamo notte. E invece è arrivato il momento di fare sera, come si conviene al nostro programma, cioè lasciandoci con una bella storia che viene dal Piemonte questa volta qua. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può, si può fare, si può fare. salutiamo intanto Nicoletta Alessi, figlia di Michele Alessi, credo che sia il fondatore dell'azienda omonima. No, è la terza generazione. Per dirla tutta. Ah, quindi nascete quando? Il mio bisnonno. Nascete quando esattamente? Nel 1921, scusi. Parliamo della storica azienda di Casalinghi, insomma, di Casalinghi, marchio di design abbastanza nota, con sede a Omegna. Siamo in provincia di Verbania, Verbano Cusiossola. Esatto. Che di fronte a un momento di crisi economica e di crisi della produzione, anziché mandare in cassa integrazione i vostri dipendenti, avete pensato di continuare a pagarli, non so esattamente se ugualmente un po' meno, un po' di più, questo ce lo spiegherà lei, mandandoli, questa però la notizia, a lavorare per il comune, a fare lavori socialmente utili per il comune. Immagino che in comune abbiano stappato le bottiglie di champagne quando avete detto questa cosa qua. Lo champagne non lo so, però sì, il sindaco era piuttosto contento, un po' spaventato, ma anche perché piuttosto contento. Deve trovare un lavoro a 200, quanti sono? 286? 286, poi nel frattempo sono diventati quasi 300 perché poi si sono aggiunte delle persone. Ma come mai il sindaco era spaventato? Perché dal punto di vista organizzativo non è stato un progetto semplicissimo da gestire, non lo è tuttora, il progetto è in corso, quindi dal punto di vista organizzativo è una macchina un po' complessa. Devi trovare un lavoro a tutta sta gente. Beh, lavori ce n'è, il problema probabilmente è di assicurazioni, chi decide, come li si gestisce, come li si organizza. Cosa fanno queste persone intanto? Allora, queste 300 persone sono organizzate in squadre che tra la fine di giugno e la fine di novembre lavoreranno in tre diversi tipi di attività. Un gruppo sta quasi finendo la ritinteggiatura della scuola, scuole elementari e medie del comune. Un altro gruppo invece sta lavorando due volte alla settimana nella pulizia della città, quindi tutti i lunedì e tutti i venerdì nella pulizia degli spazi verdi delle aree pubbliche, e un altro gruppo di persone sta lavorando invece in supporto al consorzio dei servizi sociali locali in attività per i disabili. Ah, ma che cosa facevano da voi queste 300 persone? Di tutto, nel senso che la proposta allora sono. Ma mi chiedevo da che cosa venivano spostati, cioè questi che adesso stavano tinteggiando, volevo capire che cosa facevano voi. Perché... Allora, da noi sono circa metà sono operai. E l'altra metà sono impiegati e dirigenti. Ecco, questa però è una cosa importante. Era il dirigente tinteggiatore al quale ero interessato. È una bella figura. Infatti, ecco, questa è una delle ragioni di preoccupazione del sindaco. Perché tinteggiano malissimo i dirigenti. È risaputo. Perché poi deve ripassare a ritinteggiare lui. O la seconda mano non la famo fare ai dirigenti. Ci dice una cosa. Che percentuale c'è stata però di adesione a questa vostra proposta? Molto alta, circa il 90%. La proposta adesso non voglio fare il guastatore, ma perché hanno paura magari di mettersi non di buon occhio rispetto a chi dà il lavoro all'azienda, cioè di andare controcorrente, c'è un po' anche questo, hanno paura di perdere il posto, oppure no. Io sinceramente non credo proprio, anzi devo dire che ogni tanto qualcuno dice ma perché quel 10% non ha aderito, dico meno male che non hanno aderito, altrimenti sarebbe sembrata una decisione bulgara. No? Invece così è una decisione ponderata, è una decisione libera. Assolutamente, non abbiamo fatto neanche. Perché chiariamo, il 10% che non ha aderito sta a casa a girarsi i pollici come succede normalmente. Cassa integrazione. No, avete fatto la cassa. Non abbiamo sono in azienda a lavorare. Quindi fanno tutto il lavoro di quelli che sono a tinteggiare, diciamo, il 10%. Forse sì. Forse conviene tinteggiare. Sto scherzando, ovviamente. Certo, noi non abbiamo attivato la cassa integrazione, devo dire che ci siamo trovati nella fortunata condizione di poter fare questo progetto perché c'era una concomitanza di fattori particolari, cioè un momento di esubero di capacità produttiva. Siamo quasi in chiusura, purtroppo, come si sente anche dalla musichetta, quindi comunque abbiamo reso il senso di questa cosa. Siete però tra i pochi in Italia ad averlo fatto, forse gli unici, lei si è informata? Credo che in questa forma credo che siamo stati i primi, spero ce ne siano altri. Ecco, speriamo questo, che l'esempio sia contagioso. Grazie, buona serata. Buona serata, dobbiamo fermarci qua. Io ringrazio Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Andrea Piana in redazione, Valeria Bernardi in regia, da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Io saluto buona tutti, serata. Buona ci sentiamo domani e buon ascolto anche a chi ci ascolta in podcast.